Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Eccoci qua, sono le 21 passate da 30 minuti, ci scusiamo pubblicamente del ritardo, ma qualche problema tecnico a volte può anche capitare, insomma. Buonasera da Agostino Spolaore e soprattutto buonasera anche da due cari amici, soprattutto uno è un collega che ovviamente conoscete tutti, l'altro è un ospite che tra poco ci farà sentire la sua voce. Ciao Maurizio intanto. Buonasera Agostino, buonasera ai nostri ascoltatori. Stasera abbiamo qualcosa di veramente particolare. Veramente facciamo radio a 360 gradi. Buonasera Gianluca. Buonasera Maurizio, buonasera Agostino. Ciao, ciao Gianluca, ciao. Gianluca Melli è un collega, possiamo dire un collega. Certamente. Di una radio di Verona. Radio RCS. Benissimo. E abbiamo deciso io e Gianluca di fare questo viaggio con le classifiche dei migliori dischi del secolo di Rolling Stones, dal numero 22 al numero 1. Numero 1 non ve lo diciamo mica adesso, no. Lo scopriremo quando sarà il momento. Questo viaggio tra tutti i migliori dischi di Rolling Stone, chiaramente sono dischi del 2000, una classifica del 2003 mi pare, quindi sì, può essere anche datata, ma interessante ancora. Cosa dici Gianluca? Certamente, poi le opinioni sono sempre divise, perché sai, la musica è diventata nel corso dei decenni una cosa molto soggettiva. Io vedo anche su internet, magari un disco può piacere a uno, l'altro magari ma non mi piace, eccetera eccetera eccetera. Si accendono forti dibattiti su qualsiasi disco, su qualsiasi artista, ma questo mi piace, questo artista si è venduto, certo. Ogni giorno su internet ne vedo di tutti i colori. Si parlava recentemente di Metallica da Iron Maiden, qui ce ne sarebbe da aprire di argomenti. Però dobbiamo spiegare una cosa: questa è una classifica fatta dalla rivista Rolling Stones, quindi è una classifica fatta da una rivista americana, quindi chiaramente molto prettamente nota tra americani e inglesi. Queste saranno sì, le 22 diverse tasselli fino ad arrivare al numero uno. Sì, sono riviste diciamo del settore molto note, che hanno comunque una grande storia e sono punto di dovrebbero essere perlomeno punto di riferimento per tutto ciò che riguarda la discografia mondiale, per ciò che riguarda il mondo della musica rock, pop, eccetera eccetera, insomma. Ecco, stavo leggendo sulla classifica di Rolling Stone, sì, che la commissione è stata realizzata con grandi musicisti, certo, anche Paul Simon e tanti altri personaggi del mondo della musica, quindi si tratta comunque di dischi che hanno influenzato prima di tutto quei musicisti e poi logicamente anche in termini di vendite di copie hanno influenzato moltissimi ascoltatori, persone e appassionati. Partiamo dal numero 22. Questo personaggio secondo te chi ha influenzato? Si chiamava Robert Johnson. Tutti? Dico, possiamo dire tutti? O tanti? Tantissimi? Tutti i bluesmen. Tutti i bluesmen innanzitutto. Perché comunque ha codificato un genere musicale di blues che è ancora quello che si utilizza oggi, cioè quello delle 12 battute. Esattamente. Lui comunque è morto giovanissimo, sì, e certo, ancora oggi non nella si leggenda, sa, no? Una morte avvolta nella leggenda, sì, non sì, si sa come siamo, che non fosse uno stinco di sangue. No, esattamente, quello no. Però lui ha avuto una carriera brevissima, ha registrato non so come 38 canzoni. Esattamente. Basta. Ma queste 38 canzoni hanno cambiato la storia della musica blues. È vero. Possiamo 100%. Citare Sweet Home Chicago, Crossroads e tante eccetera eccetera eccetera. A tal proposito, Eric Clapton, fra i tantissimi musicisti, ha scritto e ha detto: per me Robert Johnson è il più importante musicista blues mai vissuto, non ho mai trovato nulla del più profondamente intenso, la sua musica rimane il pianto più straziante che penso si possa riscontrare dalla voce umana. Questo ha detto Eric Clapton. E certamente, perché comunque la musica di Robert Johnson si rifletteva nella sua vita. Certo, una vita decisamente particolare. Da vagabondo, vagabondo. Da vagabondo della musica, come erano tantissimi bluesmen dell'epoca, con una semplice chitarra, quattro accordi, suonavano per un piatto di minestra, quindi è una situazione completamente diversa, certo, dai giorni nostri. Poi c'era anche il fatto che comunque negli Stati Uniti c'era ancora un po' di segregazione razziale. Era difficile. Sì, sì, poi anche lui ha avuto una fama di sciupa femmine, quindi sì, alla grande. Poi aveva una tecnica chitarristica straordinaria. Sì, sì. Finger pick in particolarissimo, che faceva solo lui. Che ha influenzato ovviamente tutti i grandi chitarristi. Esattamente. Cosa dice allora Gianluca? Sentiamo questo pezzo, Love, certo, in Vain, un pezzo famoso di Robert Johnson. Si sente proprio la voce coverizzato anche da Rolling Stones. Esattamente. Si sente proprio la voce di Robert Johnson, l'atmosfera di Robert Johnson. Sui 78 giri. 78 giri. Io non so, volevo solo aggiungere una Dimmi. Cosa. Non so per la gente che ci sta ascoltando, ma io rinuncio a prendermi i libri. Io ascolto voi due e mi faccio tutta... Siete un pozzo di conoscenza a livello rock, che è una cosa pazzesca. Complimenti a tutti e due. Ci ascoltiamo una canzone. Ok. I found her station with my suitcase in my hand. And I followed her to the station with suitcase in my hand. Well, it's hard to tell when all your love's in vain, all your love's in vain. And the train pulled up to the station, and I looked her in the eye. When the train rolled up to the station, and I looked her in the eye. Well, I felt lonesome, I was lonesome, and I could not help but cry. All my love's in vain. And the train, it left the station with two lights on behind. When the train, it left the station with two lights on behind. Well, the blue light was my blue, and the red light was my mind. All my love's in vain. Eh sì, abbiamo sentito proprio il 78 giri, hai sentito Gianluca? 38 pezzi, ragazzi, 38 canzoni e basta. Una leggenda con 38 canzoni. Pensa un po'. Pensa un po'. Pensa un po'. E ricorda un po' la storia anche di Jimi Hendrix, no? Sì. Che con tre dischi ha cambiato la storia. Ha cambiato la storia della musica, esattamente. E tante raccolte rifatte quando lui purtroppo se n'è andato. Sì, sì, si parla addirittura che Jimi Hendrix venda qualcosa come 10 milioni di copie all'anno. Ecco, quindi. Ancora adesso. E poi immaginati i diritti d'autore che arrivano al fratellastro e alla sorella di Jimi Hendrix, che, sai, sono sempre un po'. Sono beghe continue, anni e anni di beghe. Sì, cause legali. Poi certo. Avevo letto anche, ad esempio, che quando Alan Douglas è stato curatore dei nastri di Jimi Hendrix, pare che su alcuni overtake, comunque dei nastri lasciati da una parte, lui abbia cancellato alcune parti di batteria sostituite con qualcosa fatto dai turisti, quindi ha fatto anche un'operazione di scempio totale. Una cosa totale. Che terribile. Ok, questo era il posto numero 22. Passiamo al posto numero 21, Chuck Berry, una leggenda vivente tuttora. Tu, un tuo amico l'ha vista recentemente? Sì, al Summer Jamboree di Senigallia. Oddio, ha 80 anni, anche di più. Certamente non possiamo più pretendere che sia il Chuck Berry di una volta. Però sai, è integro, ha ancora quella voce meravigliosa e insomma vai a vedere comunque la storia. Esatto, vai a vedere la storia. Paghi il prezzo del biglietto per vedere la storia, per vedere lui, quello che ha inventato il rock and roll. Quante persone, quanti musicisti hanno preso i suoi accordi e li hanno trasmessi all'interno delle loro canzoni. Certamente. John Lennon ha detto una cosa straordinaria: se dovessimo chiamare il rock and roll in un'altra maniera, lo chiameremo Chuck Berry. Esatto. E Keith Richards ha detto: c'è stato un momento della mia vita nel quale l'unica cosa che volevo era imparare a suonare come Chuck Berry. E a tal proposito lo stesso Chuck Berry ha descritto il suo modo di suonare, il suo modo di vivere. Te lo spiego velocemente. Certo. Non credo di essere speciale, mentre ha a che vedere con l'espressione di Nat King Cole, la poesia di altri musicisti o l'eleganza di Duke Ellington. La mia musica è molto semplice, volevo suonare il blues, ma non erano abbastanza blu, non erano come Muddy Waters o altra gente che aveva veramente sofferto. In casa nostra non mancava il cibo in tavola ed eravamo benestanti rispetto a tante altre famiglie. Così mi sono accontentato e concentrato sul divertimento, sulle allegrie e sulle novità. Ho scritto di automobili perché una persona su due ne possedeva, ho scritto d'amore perché tutti vogliono l'amore, ho scritto canzoni che i bianchi potevano comprare, perciò mi avrebbero portato denaro. Era quello che è il mio sogno, guardare il mio estratto conto e vedere i milioni di dollari. È giusto che sia. E la CES Records ringrazia. Ecco, ha ringraziato perché è stata la proposta commerciale che ha rialzato la CES Records. Certo. Certamente Muddy Waters ha lanciato la CES Records dei fratelli. Adesso non mi sfuggono i fratelli. I proprietari. Ah, i fratelli CES. I fratelli CES. ed è stata proprio la proposta commerciale che ha fatto sì che la Chess Records facesse quel salto di qualità che aveva iniziato con Muddy Waters. Certo. Chess Records, che poi ha avuto personaggi come come si chiama la cantante quella blues, adesso mi sfugge, che è stata anche ospite del compleanno di Chuck Berry quando, quando aveva 50 anni, Etta James. Ah, Etta James, sì, Etta so. James, Otis Penn, eccetera, eccetera, tanti musicisti eccetera, importanti, insomma, ecco. Lui secondo me ha fatto una cosa straordinaria, molto semplice, quella di accelerare il blues. Esatto, sì, lui ha accelerato e basta, ed è riuscito a parlare con il pubblico bianco, tanto che in un'intervista Bruce Springsteen ha detto una cosa straordinaria, che ascoltando una sua canzone ha sentito parlare di una Cadillac color caffè. Lui ha detto: io non ho mai visto nella mia vita una Cadillac color caffè, ma so esattamente com'è. Ecco, perfetto, perché gliel'ha descritta Chuck Berry. Perfetto. Ok, passiamo al pezzo più famoso di Chuck Berry, Roll Over Beethoven. Perché uno più famoso? Uno dei pezzi. Perché più famoso? O uno dei più famosi? Perché sarebbe Johnny B. Goode. Esatto. Anche che sai che Johnny B. Goode, sì, è andato nel disco d'oro che è su Voyager, in viaggio verso lo spazio. È vero, hai ragione. Questa è una cosa giustissima. Quindi rimarrà nell'universo. Nell'universo. E questo è un pezzo famoso perché l'hanno reinterpretato anche i Beatles. È un motivo anche quello. È stato un grande rilancio. Sentiamo Chuck Berry, cosa dici? Va benissimo. Ok. Jumping little record I want my jockey to play. Roll over Beethoven, I gotta hear it again today. You know my temperature rising, the jukebox blowing a fuse. My heart beating rhythm and my soul keep a singing the blues. Roll over Beethoven, tell Tchaikovsky the news. I got the rocking pneumonia, I need a shot of rhythm and blues. Caught the rolling off the rider sitting down at a rhythm review. A roll over Beethoven, they're rocking in two by two. Well, if you feel it and like it, go get your lover, then reel and rock it. Roll it over, then move on up just a trifle further, then reel and rock with. Run another roll over Beethoven, dig these rhythm and blues. She wiggle like a glowworm, dance like a spinning top. She got a crazy partner, you ought to see him reel and rock. Long as she got a dime, the music won't never stop. A roll over Beethoven, a roll over Beethoven, a roll over Beethoven, a roll over Beethoven. Ok, benissimo, abbiamo sentito allora la posizione numero 21, Chuck Berry, ancora vivo e vegeto nel senso musicale del termine, pimpante. E soprattutto lo devi, dimmi, pagare prima che si attacchi il jack della chitarra. Ecco, sì. L'ha inventata lui la regola Chuck Berry. Vera? Si chiama. Spiega un pochettino, dai. No, la regola Chuck Berry è nata grosso modo verso il 59, perché Chuck Berry era stato chiamato a fare un concerto e si è trovato di fronte a due o tre ragazzini, non l'hanno neanche pagato, e da quel giorno Chuck Berry ha detto: se volete che io suoni, mi date prima i soldi e dopo attacco il jack della chitarra, altrimenti niente. E lo fanno tanti musicisti americani così. Perché hanno imparato da Chuck Berry. Esatto, la regola è proprio Chuck quella. Berry. Prima si deve pagare i contratti e poi loro vengono a suonare. Tutti i musicisti americani fanno così. Altrimenti ti fregano. Esattamente. Allora passiamo al numero 20. Numero 20. Stranamente parlavo con Gianluca. è solo il 20° posto della classifica dei Rolling Stone, pur essendo il disco in assoluto più venduto della storia. Thriller. Disco più venduto della storia. Com'è, secondo te, 111 milioni di copie, al di là del 20 milioni vendute post mortem? Bella domanda, secondo me perché ha cambiato in quel momento la musica nera. Sì. Perché prima si veniva dalla disco music, dal funky, era un momento di grande cambiamento, sempre meno band con gruppi nutriti, quindi arrivavamo da Kool & The Gang, arrivavamo dai Parliament Funkadelic, dai Barcase, eccetera, eccetera, eccetera. Michael Jackson è stato quello, grazie a Quincy Jones. E soprattutto grazie a lui, Quincy Jones, che ha modellato il personaggio. Aveva già fatto qualcosa con Off The Wall. Sì. Dando questa impronta un po' a disco music, ma lui voleva fare qualcosa di nuovo, di innovativo, di moderno, e ha radunato musicisti di varie estrazioni per cercare di trovare questa nuova formula che stava avanzando attraverso la musica e la tecnologia. E ha trovato questo mix tra la musica soul di Detroit, la musica anche in un certo senso un certo pop rock, sì. Il ballo, soprattutto il ballo, cose, fuso un po' tutto, esatto. Fuso un po' tutto, poi anche lui questa grande capacità di muoversi, del famoso moonwalk, eccetera. Un uomo da palcoscenico, al 100%. Palcoscenico. Esattamente, un animale ballerino, da palcoscenico. Tantissimi ballerini lo indicano come suo modello, cioè come modello per i loro balletti, per le loro coreografie. Per molti ballerini, soprattutto per chi ha ballato con Michael Jackson, è stato un onore assoluto. Stavo guardando un'intervista a uno dei membri degli NSYNC, famoso sì. pop, un gruppo pop, ballerini, sai come. E lui diceva, ballare con Michael Jackson in quel momento è stato per me l'esperienza più bella della mia vita. Io che ho studiato tantissimi anni ballo, quindi figurati, no, provini, eccetera, eccetera, trovarsi a giovanissimo, a 25-26 anni, di fronte a uno che ascoltava nei dischi, credo che sia un'emozione per tutti, insomma, ecco. È vero. Un artista straordinario, visto che è un artista straordinario, che è un grande, un artista che ama particolarmente il nostro regista. Sì, grazie. Al di là del vetro. Agostino, che cosa hai scelto da Thriller? Io ho scelto quella che lui appena poc'anzi accennato, cioè parlava di Moonwalker, del passo fantastico. Il passo, sai, il famoso passo. Famoso, ed è quella canzone che ha lanciato questo passo, cioè Billie Jean. Penso sia una delle canzoni più rappresentative di questo Thriller. E poi ovviamente ognuno ha i suoi gusti. Ovviamente. Certo, certo. E io reputo che sia stupendo. Anche grande videoclip. Sì, sì, dove, beh, balla, sì, dove certo. Ci sono i vari cubi che si accendono. Anche città, l'idea del videoclip di è stato uno dei primi, quello interessante. Beh, Thriller è stato prima come, esatto. come videoclip che è stato girato da John Landis, nato dai Blues Brothers. Esattamente. Poi è stato stupendo. A me Michael Jackson piace tanto, Maurizio, mi dispiace per te che no, tu... ma io, cioè, fra tanti artisti ne preferisco altri, però essendo 20° nella classifica, bisogna rispettare la classifica, mettiamo sul pezzo certo. di Michael Jackson. E allora, da Thriller, Michael Jackson con Billie Jean. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. 21 passate da 54 minuti in questo istante, questa è sempre Blu Radio Veneto e questa è sempre la fascia oraria chiamata Blu Radio Sera. Questa sera eccezionalmente con il sottoscritto nella regia, cioè Agostino Spolaore, a tenervi compagnia c'è anche Maurizio Calzavara e Gianluca Merlin, che stiamo praticamente conducendo un programma inerente alla classifica della rivista americana Rolling Stone, dal 22esimo a ritroso fino al primo posto. Poc'anzi ci siamo ascoltati Michael Jackson con Billie Jean, da quel famoso, bellissimo, stupendo, straordinario, che ne dica Maurizio, Thriller, e adesso vi lascio la parola. E cosa ne pensi di Astral Weeks, un disco che praticamente ha avuto un percorso molto lento, è stato amato un po' alla volta praticamente? Ma di Astral Weeks ho letto una cosa molto interessante recentemente, perché sai che Van Morrison, tipo molto particolare Van Morrison, molto personaggio, particolare, e di Astral Weeks ne ha proprio questa storia. Lui ha rifatto per intero l'anno scorso, sì, Astral Weeks in alcuni concerti, sì, negli Stati, certo, Uniti. Gli è stato proposto attraverso Claudio Trotta della Barley Arts di rifarlo in Italia, però lui ha risposto di no, perché gli ha proposto altri dischi, ma vediamo, non lo so. Astral Weeks è il primo disco in cui Van Morrison passa il beat dagli Them, sì, esatto, quindi da una situazione rhythm and blues, eccetera eccetera, ha un nuovo corso della sua carriera in America, che lo vede suonare per la prima volta con musicisti di estrazione jazz. Sì, questo è vero. Difatti è un disco, non dico jazz, ma alla tendenza. Diciamo comunque un mix tra il rhythm and blues, la sua grande passione, e del jazz, di cui lui non sapeva nulla. Esattamente. È arrivato qua, ha conosciuto questi musicisti, che alcuni di loro sono ancora nella band di Van Morrison, ed era praticamente senza un soldo. Lui è arrivato in America, non aveva né un soldo né niente. Perché? Perché aveva litigato con l'etichetta sua inglese, e il proprietario di questa etichetta, visto che Van Morrison non è un personaggio, diciamo così, accomodante, no, assolutamente, viene no, chiamato l'orso irlandese perché vero, proprio ha questo brutto caratteraccio, Van Morrison, litigando con questo personaggio, la moglie di questo proprietario, questo di questa manager, etichetta, dalla mattina alla sera si è trovato senza il marito, morto per un infarto, e lei praticamente ha accusato Van Morrison di questo, di aver provocato quell'infarto, questo, no? Se non che Van Morrison si è ritrovato innanzitutto con un contratto capestro che non gli permetteva di registrare se non con quell'etichetta, però allo stesso tempo non poteva registrare e non poteva, gli erano stati bloccati mi sembra i fondi o comunque i suoi soldi. Lui si è trovato in America con una famiglia da mantenere e senza praticamente possibilità di avere un management, niente di niente, aveva un piccolo appartamento con un frigo e basta. Lo ha scoperto un membro della Jerome Gates Band, gli ha detto: beh, scusa, tu sei qua in questo piccolo appartamento, sei Van Morrison, io ti ascoltavo i tuoi CD dei Them, e lui dice: guarda, ho avuto questa storia qua lì là. Ed è riuscito a parlare con quelli della Warner Brothers. Sì, ha fatto il contratto con la Warner. Ha fatto il contratto con la Warner Brothers. Da quell'episodio Van Morrison già prima aveva il suo caratteraccio, da quel momento in poi Van Morrison si fida solo ed esclusivamente di persone che gli girano attorno. Addirittura Claudio ha raccontato che a Milano, quando lui arrivava a suo tempo a fare i concerti, doveva fare gli guide autista perché non si fidava di nessuno. Oppure ad esempio il giorno prima chiedeva a lui, gli diceva: guarda, c'è mica un localino jazz, mi piacerebbe suonare con la band. Lui arrivava, la band cominciava a suonare, lui stava lì, si guardava intorno, poi gli diceva: no, andiamo a casa. Sì, una cosa da sottolineare dal punto di vista critico, cioè musicale, Astral Weeks è stato amatissimo da parecchi musicisti, cioè è stato una guida praticamente. Sì, diciamo che hanno scoperto un mondo con Van Morrison, con questo disco soprattutto. Sì, perché è stato il primo artista, diciamo, rock, comunque, sì, rock, tra ad introdurre nella musica pop rock questi elementi jazz, insomma, ecco, una cosa inedita che comunque già in America aveva visto alcuni esperimenti nello stesso periodo con i Blood Sweat and Tears, con i Chicago, però era un altro tipo, un'altra dimensione, un altro, questa è modo, una dimensione più cantautorale, sì, è vero, però con questi elementi jazz. E poi una cosa da sottolineare, non su questo disco ma negli altri dischi successivi, pezzi molto dilatati, molto lunghi, era il periodo 7, 8, 9 minuti in America, era il periodo degli Allman Brothers Band, come dicevo prima, di Blood Sweat and Tears, sì, Chicago, certo. Quindi questa voglia da parte dei musicisti, tanti di stampo jazz, anche di stampo classico, poi come succederà con i Kansas eccetera eccetera, quella di lasciare che i brani andassero in lunghe libere jam improvvisate, che poi è anche lo spirito del jazz, quello dell'improvvisazione, quello di del dilatare la musica che era nata a suo tempo con i Cream e quindi con Jack Bruce, con Ginger Baker, che erano a sua volta musicisti di stampo jazz. Certo. Quindi c'entra comunque il jazz in tutte le, salse. Ok, cosa sentiamo di Van Morris da Astral Weeks? Cosa hai scelto? La title track. La title track, benissimo. Ok? If I ventured in the slipstream between the viaducts of your dream, where mobile steel rims crack and the ditch in the back road stop, could you find me? Or would you kiss my eyes, laying you down? The silence is the ache to be born again, to be born again. From the far side of the ocean, if I put the wheels in motion, then I stand with my arms behind me, and push another door. Could you find me? Would you kiss my eyes? Lay me down. In silence easy to be born again. To be born again. Standing with the look of avarice, talking to Hugh Ledger, showing pictures on the wall, whispering in the hall. I'm pointing a finger at me. There you go. Got clean clothes, putting on his little red shoes. Seeing that he's got clean clothes, I'm putting on his little red shoes. I'm pointing a finger at me. Hey! Straight at you, coming through, darling. Yeah, yeah, yeah, yeah. If I ventured in the slipstream between the viaducts of your dream, where a mobile steel rims crack and the ditch in the back road stop, could you find me? Would you kiss my eyes and lay me down? And silence easy to be born again, to be born again, to be born again, to be born again. in another world, darling. In another world, in another time. Got a home on high. Ain't nothing but a stranger in this world. I'm nothing but a stranger in this world. I got a home on high. In another land. So far away. So far away. We up in the heaven. We up in the heaven. In another time, in another place, in another time, in another place. Ooh. Time and another place. Blu Radio. Il Veneto come non l'hai mai sentito. Allora, prima di continuare con la trasmissione, volevo fare anche una precisazione, perché abbiamo ricevuto qualche segnalazione di un non perfetto segnale radiofonico. Allora, come ad esempio la Lorena che ci ha avvisato, guarda che non si sente benissimo. Vi ricordo la frequenza 88 e 700, la nostra frequenza per quanto riguarda Blu Radio Veneto, e se potete ascoltarci anche tramite internet e in streaming collegandovi nel sito della radio, cioè bluradioveneto.it. Ok, abbiamo sentito questo lunghissimo ma meraviglioso pezzo di Van Morrison. Abbiamo parlato di jazz, ma anche c'è un po' di folk. Certamente, perché molto folk. Le radici di Van Morrison sono irlandesi. Esattamente, irlandesi di Belfast, quindi insomma. Nord irlandese, Belfast. Giriamo pagina, questo è il numero 19, adesso andiamo al numero 18. L'anno, quando è arrivato sul palcoscenico, è il nuovo Dylan. È il boss, Dylan, chiaramente. Cosa possiamo dire di Born to Run, che ha sconvolto le menti di tutti, me compreso? Guarda, sicuramente è stato il disco che Anche quello di Agostino. Addirittura. Beh, insomma, Bruce non si discute. E io amo molto... Scusa se ti interrompo, Gianluca. Io amo molto la canzone, si chiama The River, comunque. Non fa parte di questa selezione. Lo so, selezione. Ma voglio dire... Darkness in the Edge of Town. Quella è una cosa che... Veramente... Anche questo non fa parte di questa selezione. Vabbè, non importa. Sono un po' dietro come posizioni. Ma ritorniamo a questo che ha fatto esplodere il mito del boss dappertutto. No, ma guarda, semplicemente è il disco che ha definito chi è Bruce Springsteen. Esattamente. Perché devo confessare che io Bruce Springsteen l'ho ascoltato per la prima volta ai tempi di Born in the USA. Quindi io ero un ragazzino, avevo 6-7 anni, no? E sentivi dappertutto Born in the USA. Io ho conosciuto, come penso tanti italiani, Bruce Springsteen a partire da quell'anno. Poi grandi concerti che ha fatto. Il famoso concerto a San Siro. A San Siro, le ore e tante ore con la E Street Band, una cosa strepitosa. Che è stato riproposto anche qualche anno fa. Sì, e che probabilmente non vedremo più a San Siro. No, per via per questioni dei deci, di volumi, cose varie. Era un concerto di 4-5 ore. Sì, perché lui è proprio una sorta di animale del palcoscenico. Vuole offrire il massimo al suo pubblico. Vuole veramente dare se stesso. È anche il segreto dei grandi artisti che fanno i grandi concerti negli stadi. O sei veramente uno che dà il massimo, che offri spettacolo alla gente, oppure è un po' difficile che riesci ad andare avanti a quei livelli. Rolling Stone scrive che doveva essere il disco capolavoro, difatti si spese un sacco di soldi al di là dei conti della Columbia, perché questo deve essere un disco capolavoro in assoluto, spese di suo. E il Jimmy Giovanni, che era il tecnico del suolo, praticamente i conti non li fece vedere ai manager della Columbia. È meglio, è meglio, perché spese un sacco di soldi, però fu un disco meraviglioso al 100%, bello anche come arrangiamenti, come conduzione. È un disco epocale, secondo me. Certamente. Cosa dici? Certamente. Anche come suono, come impatto sonoro. Sì, diciamo che aveva una grande band, una band straordinaria. Tuttora anche comunque. Tuttora. Tranne Danny Federici, che purtroppo se n'è andato. Però per il resto, voglio dire, a lui piacciono, penso che comunque abbia avuto grandi influenze da Phil Spector, perché lui piace sempre questo wall of sound. Questo è vero. Questo suono trascinante, dove ci sono tastiere, sassofono, batteria, basso, tutto insieme, tutto diciamo sparato al massimo. Diciamo, non è proprio il mio artista preferito, però per il genere mainstream, per ciò che riguarda la musica, il mainstream americano, lui è stato il massimo. A me piace moltissimo Steve Van Zandt, perché come sua attività è laterale, chitarrista suo. Esatto, come sua attività laterale ha un'etichetta dove produce le garage bands. Ah, ok. Quindi sì, lui ha prodotto Chester Kings e tanti altri artisti, addirittura c'è un gruppo italiano, e si chiama The Preachers, sono di Domodossola, sì. Sono stati inseriti all'interno dell'etichetta di Steve Van Zandt, che è quella che produce tutti gli artisti garage americani di ieri e di oggi. A proposito di Steve Van Zandt, lui ha fatto la prefazione ai 500 dischi di Rolling Stones e ha scritto che secondo lui, chiaramente non è la classifica di Rolling Stones, secondo lui il miglior disco dei Rolling Stones, cioè il numero uno, doveva essere Please Please Me dei Beatles. Diciamo, non sei d'accordo. Please Me è i primi Beatles, chiaramente l'inizio di carriera. Ma sai, i Beatles hanno passato talmente tantissime, hanno variato tantissimo la loro musica, che penso che ognuno abbia un disco suo preferito. Sì, ma per lui era quello, perché forse sono più spontanei, sono più garage. Certo, perché proprio Van Zandt ha questa idea, no, dal garage, essendo che è un disco praticamente registrato in 12 ore. È chiaro. Quindi proprio una roba facile, con un classico quattro piste in mono, eccetera eccetera eccetera, con molta probabilità è quello più spontaneo, quello più facile, diciamo, quello più che arriva direttamente all'appassionato di musica rock and roll. Doveva essere il disco che doveva ricreare in studio le esibizioni di Amburgo. Esatto, e del Cavern. È vero, del Cavern di Amburgo. Poi tecnicamente, quel che vuoi, non è il massimo, no. Però diciamo è quello più spontaneo, quello con forse la copertina più bella, ha le canzoni diciamo più d'impatto, eccetera eccetera eccetera. Sì, potrebbero dire è cominciato a iniziare la leggenda, probabilmente. Poi si è sviluppata la grande, ne parleremo. Abbiamo tempo fino alle 24 o quasi, siamo sempre qua. Allora sentiamo questo pezzo del Boss, che è un pezzo meraviglioso. È un pezzo meraviglioso, vero Boss. Thunderbird. Ok. Like a vision, she dances across the porch as the radio plays. Roy Orbison singing for the lonely. Hey, that's me and I want you only. Don't turn me home again, I just can't face myself alone again. Don't run back inside, darling, you know just what I'm here for. So you're scared and you're thinking that maybe we ain't that young anymore. Show a little faith, there's magic in the night. You ain't a beauty, but hey, you're alright. Oh, and that's alright with me. You can hide with your colors and study your pain. Make crosses from your lovers, the roses and the rain. Waste your summer praying in vain. Blu Radio. Dai colore alle tue frequenze. Blu Radio, Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ragazzi, abbiamo sentito il boss. E quando sento il boss, niente, mi illumino di meso, diceva Ungaretti tanti anni fa. E a proposito del boss, sai che è uscito il disco nuovo, no? Un altro dal vivo. Io sono rimasto alle Sega Sessions. È uscito un altro dal vivo recentemente, qualche giorno fa esattamente. Uno dei innesimi concerti a Dublino, sto qua sempre. Il boss. La terra degli U2. Sempre lui, sempre. Il boss è il boss. Posto numero 18 e il posto numero 17. Kurt Cobain. Cosa mi dici, Kurt? Un mito Nirvana. Per tanti ragazzi. Ami Nirvana. Questi sono proprio ricordi di adolescenza, sai. Tu sei più giovane di me, Agostino, lui è più giovane, molto più giovane sì, di me. Sì, molto più se vuoi ti dico quanti anni ha anche. Molto più giovane di me. Vai, quindi Nirvana. No, 4-3. 4-3? Ma è giovanissimo. No, 3-4. Ah, ma è giovanissimo, ma giovanissimo. Giovanissimo. In Nirvana, cosa sono stati per te in Nirvana? Nirvana sono stati la... Allora, per un ragazzo che era il classico ragazzo un po' emarginato dagli altri, perché non eri quello che te la tirava, perché tutti amavano i Guns N' Roses, perché all'epoca erano... Adesso dirò proprio, non dico un'eresia, ma comunque sia, no? Oggi, no? Che te vedo tanti ragazzini che postano filmati dei Guns N' Roses, hanno dischi di Guns N' Roses, no? Io l'ho vissuto quasi come un trend, come una moda, come quando sono venuti fuori, quando è venuto fuori il film dei Doors, no? Sì. Tutti con i Doors avevano i quaderni, avevano le scritte di Jim Morrison, eccetera, eccetera, eccetera. Senza magari sapere, al di là delle tre canzoni che conoscono dei Doors. I Nirvana sono stati quella perché, sorta di perché antitesi. Conoscono solo tre canzoni dei Doors e non conoscono tutti i cinque dischi dei Doors? Qualche altro conoscere un po'. Perché magari hanno le raccolte. Ah, ecco, vero, hanno le raccolte. Perché magari non conoscono, che è LA Woman, queste cose qua, no? Però sentivi sempre Light My Fire e tutte quelle canzoni, no? Che erano sempre quelle, magari erano collegate con il film. Certo, certo. Perché un film solitamente ti dà quell'imprinting che resta tutta la vita, come è successo con i Blues Brothers. Sì. Tante canzoni, ma sono dei Blues Brothers. No, non sono dei Blues Brothers. Sono dei Blues, sono della colonna sonora dei Blues Brothers. È come non quando sono... è venuto fuori CSI, no? Sì. Tutti, Bob O'Reilly. Non è la canzone di CSI, sono nati persino dei gruppi su Facebook, non è la canzone di CSI, Bob O'Reilly, per favore. Addirittura gli U hanno detto, non vogliamo passare per la storia per essere quelli che hanno fatto le canzoni di CSI. Sono d'accordo con te, però inconsciamente... Cioè, t'aiutano, perché anche Rock Around the Clock alla fine è stato t'aiutano per scoprire qualcosa, però poi approfondisci, non certo, devi rimanere alla superficie. Loro lo vanno a prendersi Who's Next, se lo sentono tutto allora capiscono chi hanno. Hanno sempre la cultura della canzoncina. Ah, solo quel pezzo là. A me piace invece il disco in sé. Allora, no? Ritorniamo ai Nirvana e ritorniamo a questo epocale album che si chiama Nevermind. Allora, per molti ragazzi, secondo me è stato un po' valutato a posteri più che all'epoca, ma all'epoca per me è stata una sorta di valvola di sfogo per tutti quei ragazzi che si sentivano oppressi o comunque messi da una parte. È stato proprio una rabbia, un qualcosa che ha fatto scaturire quelli della mia età, che erano arrivati dagli anni 80, Spandau Ballet, Duran Duran, quindi che avevano magari il cugino più grande, no? Che sentiva questa musichina patinata, Madonna, Prince. Sono arrivati questi qua e sono esplosi in una maniera deflagrante. Sì, 20 milioni di copie hanno venduto. Che è stata amplificata anche da MTV. Certo, sì. Perché all'epoca cominciavo a vedere MTV, che era su diffusione europea, me la ricordo ancora. Bravo, bravo, hai ragione. E guardavo i primi videoclip e vedevo questi pazzi scatenati, no? Che saltavano. Ma di pazzi, ma cos'è sta roba? Io avevo ascoltato Jimi Hendrix, Tanya's After, eccetera, eccetera, e stavo cominciando ad entrare in un'ottica molto più rock. Sono arrivati questi qua, con questi volumi pazzeschi, con questo modo di pogare, di saltare nel pubblico, di lanciare gli strumenti, sfasciare gli strumenti, che mi ricordava gli U. E ho detto, ma questi qua sono fenomenali. La sì, cosa che mi ha colpito molto di più è il volume stratosferico delle chitarre. Esattamente. Tu sai molte cose, sai anche della copertina? Di quella no. Ecco, te la spiego io, la famosa copertina di Nevermind. Il bambino della copertina dell'album Nevermind, non abbiamo stasera, le telecamere non funzionano, però è famosa, è famosissima, è Spencer Elden, fotografato all'età di 4 mesi. Bene, questa è una cosa meravigliosa. A Pasadena, in California, dal fotografo Kirk Whittle. I genitori Renata e Eric Elden percepirono un compenso di $150. E basta. E basta. Il gruppo di Nirvana regalò poi al ragazzo il disco di platino dell'album in segno di riconoscenza. Nel 2005, a 15 anni, Spencer Elden comparve in un documentario, un DVD intitolata Classics Album. E in un'intervista del 2006, rilanciata in New Music Express, ha espresso la sua ammirazione per il gruppo e si è offerto di posare un'altra volta. Sempre chiaramente all'età che era. Ma in America verrà censurato. Esatto. In America. Quindi già la copertina è meravigliosa, questo dollaro sospeso in acqua e questo bambino sospeso in acqua. Ma è la musica che c'è dentro. È la musica che c'è dentro. Inciso in una generazione, soprattutto quelli nostri che si vestivano, no, con i pantaloni rotti, con gli anfibi. Io vedevo a scuola ragazzi che prendevano addirittura gli anfibi del nonno e dicevano: guarda, sai, c'ho gli anfibi. Tu hai detto giustamente una cosa che ribadisce anche Rolling Stone. In anni recenti nessun album ha avuto un impatto simile su una generazione come questo disco. Tu hai spiegato chiaramente perché. Hai spiegato te che all'epoca avevi proprio l'età giusta per recepire questo. Soprattutto gli adolescenti che sono in... Adesso lo posso vedere da adulto, ma all'epoca, quando sei un adolescente, hai tanta rabbia, tanta voglia di spaccare il mondo, che hai bisogno di un detonatore potente. Vedi magari i ragazzi, no, che se la tirano, tu sei sempre il ragazzino messo da una parte, che sei quello buono, no, che ha il suo mondo, eccetera, eccetera, eccetera. E in quel periodo che proprio tu eri... Come ad esempio Kurt Cobain, no? Certo, che era un Beatle maniaco, lo sai, no? Sapevo che aveva voglia di suonare la batteria. Sì, suonava Giulia dei Beatles. Vabbè, tra le tante canzoni poi sì, comunque... era un Beatle maniaco, era amante di John Lennon, chiaramente un pezzo di John Lennon. Si rispecchia moltissimo nel personaggio di John Lennon. Il singolo si chiamava Smell Like Teen Spirit. E sai perché me lo ricordo? Perché qua dentro, in questa radio, quando era... Sì, era sempre qua. No, era nella sede, l'altra sede. C'è un ragazzo che si chiama Ugo Maggi, spero che sia all'ascolto. La sua trasmissione iniziava con questo pezzo, con questo singolo, che all'epoca c'erano i vinili, chiaramente, ed era talmente inciso consumato, perché andava sempre in onda. Era una sigla che lasciava, cioè che dava l'impulso, dava... proprio l'input, giusto? La voglia di saltare, voglia, a tutti i costi e di saltare addosso. Infatti quando nelle festine che facevamo in parrocchia, no, partiva un brano di Nirvana, a lei tutti a pogare, via. Allora ragazzi, fermatevi. No, veramente sembrava di premere un tasto, via. Perfetto. Tu che pezzo hai scelto di questo album? Lithium. Ecco, come mai hai scelto questo e non il singolo? Giustamente l'abbiamo fatto, è una cosa voluta esattamente. Non abbiamo scelto il singolo perché bisogna scegliere anche cose diverse. Cosa allora dici? Diciamo che il mio primo videoclip che ho visto di questo disco è stato in Bloom. Okay. Perché era, no, questo dualismo, no, che cominciava con i Beatles e poi partivano a sfasciare tutto. Lithium ha questo inizio tranquillo e poi esplode in tutta la sua potenza, ma nel videoclip di Lithium ci sono anche dei frammenti di alcuni concerti dei Nirvana dove Chris Novoselic e Kurt Cobain battagliano e c'è questa bellissima immagine di loro con basso e chitarra a formare una croce che è una cosa unica che c'hanno solamente loro, che c'avevano solamente loro. E mi ricordo quello spezzone del famoso concerto di Reading dove alla fine del concerto prendono chitarra e prendono il basso e lo lanciano contro gli amplificatori. Lì è stata una roba che ho detto non avevo visto solo agli U, ma loro l'hanno fatta con una rabbia, con una violenza che ho detto incredibile. Mi ci sono identificato. All'epoca, se eri un ragazzo triste, ti ci identificavi, era la tua rivalsa contro un mondo che ti dava addosso. Ricordiamo che un disco più venduti dei Nirvana è stato Unplugged, che era un disco meraviglioso, dei primissimi Unplugged fatto, sì, assieme a quello di Dylan e altri. Ce n'erano già stati anche, però, McCartney, sì, eccetera, però eccetera. Di un gruppo rock non ho tanti. MTV da questo punto di vista all'epoca ha fatto veramente un lavoro di promoting impressionante, perché i brani venivano ogni tanto, no? Certo. E sai benissimo che l'Heavy Rotation è micidiale e nella storia della radio, nella storia della televisione, l'Heavy Rotation è quella che imprime nelle persone, nella testa delle persone, le canzoni e le immagini. È vero. Ed è quello che è stato il segreto di Unplugged in New York, perché addirittura io un giorno stavo in Trentino, ero, non so, su in montagna, su questo negozietto, sentivo tutto l'Unplugged di New York. Ora, eravamo in un posto sperduto in mezzo alle montagne trentine e sentire Nirvana è stata una roba... Adesso non siamo nelle montagne trentine, però siamo ci qua. Ascoltiamo il pezzo? Cosa dici? Esatto. Ok. Lithium. I'm so happy 'cause today found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay, 'cause so are you. Book on ears, Sunday morning is every day for all I care. in our days, 'cause I found God. Radio. Dai colore alle tue frequenze. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Allora, io vi ricordo sempre che questa è una trasmissione particolare, nel senso che stiamo parlando della classifica della rivista Rolling Stone degli anni passati della musica rock. Eravamo arrivati al numero 17, adesso abbiamo la 16. Vi ricordo che comunque al microfono c'è sempre un carissimo amico che viene da una radio della provincia di Mantova. Verona. Verona, mi sbaglio sempre. C'è Casa Leone. Casa Leone. Si chiama Gianluca Merlin, ci sta facendo un'ottima compagnia, anzi è un pozzo di conoscenza, quindi non c'è niente da dire. Assieme a lui c'è l'altro pozzo di conoscenza, cioè Maurizio. Pozzino. Io, il mio è un pozzino. No, pozzino. Siete fantastici. Lasciatevi. Io sarò di parte, ma siete veramente bravissimi, insomma. E la voce della regia è quella di Agostino. Dobbiamo salutare la Martina, che è la nostra fotografa. Bravissimo. E la redazione. Oggi fa la redazione, è una cosa importantissima. Sai che mi ti metti i numeretti, certo, è importante. Senza i numeretti non si fa. Mi passa i dischi, mi dice guarda che questo è fondamentale. Bravissimo. Grazie Martina. Poi ti do un bacio. È fondamentale. Ok, abbiamo passato allora il numero 17, Nevermind. Adesso andiamo a uno di tanti capolavori che passeremo e ascolteremo del grande Robert Zimmerman. Bob Dylan. Bob Dylan, Blood on the Tracks, questo sangue sulle tracce. Grande disco anche dalla copertina, molto profetico. Ha un perché questo dai, disco. Dai, spiega il perché. Viene chiamato il disco del divorzio perché in quel periodo Bob Dylan stava divorziando dalla prima moglie Sarah Lawrence. La famosa Sarah. Quella che gli ha dato Jacob Dylan, eccetera. Certo, eccetera. Certo. Attualmente musicista solista, ex leader degli Wildflowers, eccetera, eccetera, eccetera. Ha fatto un disco di recente da solista, lo sai? Sì, è stato prodotto da Rick Rubin. E sì, che adesso sta producendo un po' di cose, visto che ha riportato... Lui e T-Bone Burnett sono i due produttori più ricercati in questo momento negli Stati Uniti. E Rubin ha rilanciato nel Diamond l'anno scorso, 2 anni fa, ha avuto un grande successo, è stato il numero uno dopo tantissimi anni. Ma poi il segreto di Rick Rubin è molto semplice. Dimmi. Quello di far registrare in presa diretta gli artisti. Da Johnny Cash in su, praticamente. Sì, cioè lui non ha tecniche di sovraincisione. Forse ce l'abbiamo più noi europei, sì. O comunque un certo tipo di artisti, ad esempio AOR, no? Cioè quindi Boston, la tecnica della multitraccia, di queste cose qua. Loro registrano in presa diretta, che poi alla fin fine è la cosa che piace ai roccofili, agli appassionati, quella in cui sei tu con il tuo strumento in uno studio di registrazione con i separè e registri. Via. In presa diretta. Take one e via, take due, eccetera, eccetera, eccetera. Come si faceva negli anni 60, negli anni 70, eccetera, eccetera, eccetera. Guarda caso, sono i dischi che amiamo ancora. E questo è vero. Sì. Chissà perché. Esatto. Però dobbiamo sottolineare che questo produttore ha rilanciato molti artisti, oltre a Johnny Cash, tantissimi. Mi ricorda molto David Bowie, che ha ripreso per i capelli Lou Reed e hip hop. Non dico niente. Cioè, il modo Hubble anche. Anche il modo Hubble, sì, gli Hunter, però. Transformer l'ha creato David Bowie come produzione. Sì, era il periodo di Lou Reed in cui Lou Reed si è lasciato trasportare da David Bowie, no? Certo. Ha cominciato anche a truccarsi, ad avere quegli atteggiamenti, qui ha anche prodotto dei grandi capolavori come anche Rock and Roll Animal, eccetera, eccetera. Poi Lou Reed all'inizio degli anni 80 si è disintossicato, ha cominciato ad avere un sempre più brasso profilo, ad avere questa musica sempre più intimista, legata a New York, all'East Coast, quindi chiaramente, sempre all'East Coast. Ma parleremo di Lou Reed fra un po' di numeri. Ritorniamo a questo capolavoro assoluto degli anni 80, degli anni 70. Forse il disco migliore secondo moltissimi critici, non so se sei d'accordo. Ma io preferisco Desire. Preferisci Desire? Ecco. Anch'io. Perché c'è Harry Kane? Ma poi perché anche ci sono tantissimi artisti ospiti: Eric Clapton, certo. Emmylou Harris, questa Scarlett Rivera che Dylan notò a Green Hill. Una voce meravigliosa. Dice: questa ragazza è brava, me la porto in studio. Però Blood on the Tracks è molto profetico. Ma poi, tra l'altro, Blood on the Tracks, se non sbaglio, quando era finito, Dylan lo ascoltò e disse: non mi piace. Lo registrò con altri musicisti del Minnesota e rifece, mi sembra, la parte A del disco. Sì, qua c'è scritto che esegui l'intero album per David Crosby, Graham Nash e Mike Bloomfield. Cioè? Cioè, per far sentire che era un bel disco, fece eseguì il disco a questi 3 amici praticamente. Ho capito. Quindi, sì, può darsi che dopo abbia detto non mi piace, però all'inizio l'idea era diversa. Sì, aveva l'idea, poi è cambiato tutto, sai come Dylan, personaggio sempre... Beh, lo sai cosa fa Dylan quando sale su palcoscenico? Beh, lo sai sicuramente. Non dice mai la scaletta ai musicisti. Ma ultimamente mi hanno detto che non parla neanche. E non parla neanche. Perché l'ultima volta l'ha citato Gualtamacchi, che è il direttore di Jam, è stato a vedere un concerto di Dylan qualche mese fa. Lui è arrivato, vestito da Zorro. No, ma ultimamente si veste da cowboy, sai che ha questi baffettini. Sì, vestito da Zorro. E i musicisti erano là, lontani, tutti neri, vestito di nero, chiaramente. Salito sul palco, cominciato, ha guardato uno sguardo di un secondo e sono partiti. Sì, ma lui è così. Addirittura ha fatto un tour con Van Morrison. Sì. È stato l'unico artista che ha voluto in tour assieme. Ci sarebbe anche Santana, sei venuto sì, a Verona. Certo. E pare che durante la tournée si siano detti solamente ciao. Ottimo. E basta. Ottimo. Beh, avevo visto conoscendo Van Morrison, fatto Guaitamacchia all'epoca di Tele Più 2, no? Dove c'era un suo amico che era riuscito ad intrufolarsi in un albergo dove c'era Bob Dylan è seduto su questa sedia e l'ha visto, gli ha detto ciao. Lui si è alzato, Bob Dylan gli ha dato una pacca sulla spalla, che hanno detto i suoi collaboratori è il massimo riconoscimento che ti può dare. Ah, perfetto. Perché lui è fatto così, proprio ti dice neanche due parole, ti dà una pacca sulla spalla, va. Ecco, il pezzo che tu hai scelto da Bruno Trex, scrive sempre Rolling Stone, e gli comportò che gli erano voluti 10 anni di vita e 2 di scrittura per scrivere questo pezzo. Tangled Up in Blue. Cosa dici? Ma mi è venuta in mente un'altra cosa che ho visto su una recensione di questo mitico album. Dove dice: chi ci vede i polidromi dei Dire Straits è servito. Perché Mark Knopfler l'ha sentito molte volte sto disco, secondo te? E poi gli ha prodotto anche dei dischi, sì, chiaramente dopo, verso la fine degli anni 70, all'inizio degli anni 80, nella sua famosa conversione spirituale. Sì, ha fatto 2-3 dischi, sì. Non religiosi. Bellissimi, secondo me, però significativi per capire il personaggio. È comunque uno di quei dischi che riflette moltissimo la sofferenza di Bob Dylan. Ci sono molti riferimenti alla moglie. È uno di quei dischi che fa l'artista proprio quando è triste. In una cosa bellissima che ha detto Paul McCartney, ha detto che quando più hai crisi, più hai materiale. È una cosa giustissima che vale per moltissimi dischi. E vorrei citare anche, per andare un pelino avanti, Marvin Gaye. Sì, esattamente. Siamo, e tratteremo dopo. Ne parleremo comunque dopo. Comunque è un piccolo collegamento che facciamo. Certamente. Per ciò che riguarda quei dischi dove l'artista si mette a nudo, proprio rivela tutto ciò che sono i propri particolari intimi, più intimi anche meno magari che potrebbero andare al pubblico. Infatti ha scritto una canzone che è intitolata Sara, sì. Che è una supplica proprio alla moglie di Dylan. Esatto, non bellissima, lasciarmi, bellissima. In ogni caso qua non è prodotto da Daniel Anouar, vuol dire forse. Cosa Ma Daniel Anouar poi è arrivato poi è arrivato dopo, ha fatto dei capolavori insieme a lui. Sentiamo Dylan, allora. Cosa dice Agostino? Sì, ci ascoltiamo la traccia che apre l'intero lavoro, cioè Tangled Up in Blue. Early one morning the sun was shining, I was laying in bed, wondering if she'd changed it all, if her hair was still red. Her folks, they said our lives together sure was gonna be rough. They never did like mama's homemade dress, papa's bank book wasn't big enough. And I was standing on the side of the road, rain falling on my shoes, heading out for the East Coast. Lord knows I paid some dues getting through. Tangled up in blue. She was married when we first met, soon to be divorced. I helped her out of a jam, I guess, but I used a little too much force. We drove that car as far as we could, abandoned it out west. Split up on the docks at night, both agreeing it was best. She turned around to look at me as I was walking away. I heard her say over my shoulder, we'll meet again someday on the avenue. Tangled up in blue. I had a job in the great north woods, working as a cook for a spell. But I never did like it all. And one day the axe just fell. So I drifted down to New Orleans, where I lucky with a bee employed, working for a while on a fishing boat right outside of Delacroix. But all the while I was alone, the past was close behind. I seen a lot of women, but she never escaped my mind. And I just grew this place, and I stopped in for a beer. I just kept looking at the side of her face in the spotlight so clear. Later on when the crowd thinned out, I was just about to do the same. She was standing there in back of my chair. I said, Timmy, don't I know your name? I muttered something underneath my breath. She studied the lines of my face. I must admit, felt a little uneasy when she bent down to tie the laces of my shoes. Pray. I thought you'd never say hello, she said, you look like a silent type. Then she opened up a book of poems and handed it to me, written by an Italian poet from the 13th century. And every one of them words rang true and glowed like burning coal, pouring off of every page like it was written in my soul. But me to you, tangled up in blue. There was music in the cafes at night and revolution in the air. Then he started into dealing with slaves and something inside of him died. She had to sell everything she owned and froze up inside. And when it finally the bottom fell out, I became withdrawn. The only thing I knew how to do was to keep on keeping on like a bird that flew. To get to her somehow. All the people we used to know, they're an illusion to me now. Some are mathematicians, some are carpenters' wives. Don't know how it all got started. I don't know what they're doing with their lives. But me, I'm still on the road, heading for another joint. We always did feel the same, we just saw it from a different point. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Eccoci, eccoci. Abbiamo parlato di Dylan. Che bello questo pezzo. Era un po' di tempo che non lo sentivo più. Molto countryeggiante. Molto bello, molto, molto interessante. Molto Dylan. Molto Dylan. Dylan. Posto numero 16, Agostino. 22:44, Il tempo passa inesorabile. Ma quando si sta passa bene, in vano. Passa bene, passa no, bene. Io stavo dicendo, quando si sta bene, passa. Anche ieri sera che ero in trasmissione, veramente quando quella musica bella ti lasci andare e il tempo vola, veramente. Poi stasera abbiamo Gianluca. Poi Gianluca che poi si sta allargando, così ci fa spiegando certe cose, certe. Perché bisogna vedere anche il lato B del pezzo, non lato A, lato lui, B. Lui è un caro amico e soprattutto non c'è invidia, come tanti possono pensare. Perché fra radio, fra colleghi, fra speaker, eccetera. Lui è un caro amico prima di tutto e poi siamo colleghi. Sì, diceva Bonfinardi all'epoca, la radio è tutto. Certamente, ha una magia che magari la televisione non può avere. Esattamente. Perché ci mette in immaginazione. Certo. È la cosa bella. Poi comunque tra colleghi di radio si collabora sempre, sì, ci sentiamo, ecco. E l'invito che facciamo anche magari ad altri speaker radiofonici di altri emittenti, cerchiamo di sentirci, visto che adesso abbiamo internet, MySpace, Facebook, eccetera eccetera, e magari scambiarci delle opinioni, eccetera. Beh, io e te lo facciamo sempre comunque, certamente. Io ho anche contatti con altri speaker radiofonici, certo, di vari generi. C'è chi fa magari solo programma di heavy metal, chi fa un po' come voi rock mainstream, un po' tutto, insomma, anche di tutto un po'. Quello che faceva un po' di tutto, anzi, ha inventato il modo di suonare la chitarra. È un ragazzo di New York, di Seattle. È un ragazzo però americano. Però all'epoca suonava a New York. Sì, però si è trasferito in Inghilterra per avere successo. Certamente, no, anzi, è stato una persona che lo ha notato in America, gli ha detto questo qua me lo porto in Inghilterra. Era il manager dei? Non era il manager, era il bassista degli Animals. Sì, ma poi è diventato manager suo. Sì, è stato produttore. Produttore, manager. E manager era Michael Jeffrey. Sì, però faceva un po' di tutto, insomma, adesso. All'inizio sì, era un po'. Beh, un tutt'olo, diciamo chi è innanzitutto. Il manager. Eh no, è il manager, il musicista. Jimi Hendrix Experience. No, tutto sto giochetto per arrivare a Jimi Hendrix. Tutto sto giochetto per arrivare a il disco è del 1967. Cioè uno degli anni più importanti per la musica, secondo me. È stato l'anno della... Già il 66 comunque aveva dato dei segnali. Certo, sì. Il 1967 è stato l'esplosione innanzitutto del Flower Power. Bello, anche la copertina di Jimi Hendrix Experience è proprio una copertina Flower Power. Non si vede in radio. Non si vede, no? Però è così. Però diciamo, almeno qui davanti ho una versione che dovrebbe essere la versione americana. Sì, la versione americana, esatto. Perché poi la copertina europea è un po' diversa. Sfondo nero, Jimi Hendrix davanti, certo. E gli altri due. Noi abbiamo la versione europea, ce l'ha Agostino. E se la versione americana è qua, esatto, sul libro. E gli altri due membri dell'Experience che sembra che sbucchino fuori dal mantello di Jimmy. Citiamoli questi membri dell'Experience, te li ricordi? Noel Redding e Mitch Mitchell. Che è morto di recente, pochi anni fa. L'ultimo membro dell'Experience originale. In realtà ci sarebbe vivo ancora Billy Cox, sì, che è stato il bassista di Jimi Hendrix dal 1969 al 70. Ma Mitch Mitchell era proprio l'ultimo membro. Era un treno, un batterista strepitoso. Batterista che aveva le influenze musicali che nascevano dal batterista jazz Elvin Jones, quindi da una poliritmia. E a quanto pare era l'unico che avesse la possibilità di accompagnare Jimi Hendrix e l'unico che gli riuscisse a tenere testa. Neanche Buddy Miles, che era già un genio assoluto, assolutamente incredibile. Ma Mitch Mitchell aveva questa musicalità che gli è stata riconosciuta anche dai membri che sono venuti dopo il Trio Experience, quindi Band of Gypsies, mentre registravano proprio, mi sembra fosse Jerry Velez, sì, che è ancora vivo, certo, un altro dei membri che ha collaborato con Hendrix nel famoso Festival di Woodstock, dove diceva sembrava che in quel momento Mitch Mitchell stesse sbagliando il tempo, invece giusto, perfetto. Ricordo che all'epoca c'era Ciao 2001, ti ricordi? No, tu eri molto giovane, forse. Ma Ciao 2001, forse Agostino se lo ricorda. Ciao 2001, sì, sì, che prima si chiamava Ciao Amici. E Ciao Amici, Ciao poi Amici, esatto, a fuso è diventato Ciao 2001. E metteva i gagliardetti, no, le figurine di Jimi Hendrix, certo, con la chitarra di Jimi Hendrix. Io c'ho un ricordo vago, però in merito, sinceramente. Però è un giornale fondamentale, perché è stato il primo giornale musicale italiano a parlare. C'era Riccardo Bertoncelli che scriveva, cioè gente. Ancora oggi attivo. Ancora oggi, grande critico. È il primo giornale musicale in assoluto, prima anche del Mucchio Selvaggio, e parlava di Jimi Hendrix. E tra l'altro il servizio fotografico del concerto di Jimi Hendrix in Italia è stato realizzato da Fabio Treves, perché quelli di Ciao 2001 hanno visto che hanno fatto: ah, tu hai fatto delle foto, le pubblichiamo, non gli hanno più ridato i negativi. Per cui oggi lui ha due o tre fotografie. Poi so che aveva chiesto, in questa intervista l'avevo vista, sì, una decina, quindicina d'anni fa, detto, gli ho chiesto una corda della chitarra, non so se avevo qualcos'altro, e poi non sono più riuscito a trovare. E detto, mi sono rimasti queste fotografie piccole dove Jimi Hendrix ha suonato alla sera al Piper di Milano, perché il pomeriggio non ha potuto suonare perché i Fender non erano ancora arrivati dalla frontiera, dalla, no? Frontiera, sì. Era ancora l'epoca in cui prima di passare alla frontiera le cose è partito il come si chiamava, Maurizio Orcieri di New Dada, che era sotto Mitico, Vector, che è stato quello che ha portato Jimi Hendrix, Beatles e Rolling Stones, certo, e gli ha sdoganato i Fender. È vero, questo. E poi è arrivato a Milano, si temeva addirittura che non si facesse neanche il concerto, perché sin da allora Jimi Hendrix non stava benissimo. Però poi è arrivato, si è sistemato questa valigia di cartone, ha ricordato Fabio Treves, con questi pedali che per l'epoca erano cose da marziani in Italia, e Alberto Radius della Formula 3 possiede ancora una pedalina che quella sera qualcuno ha grattato a Jimi Hendrix e se l'ha tenuto non è in vendita, un'icona, mi raccomando, un'icona assoluta, funzionante ancora, esattamente, e che era proprio il classico pedale adattato come quelli della Gran Cassa, con una cremagliera e un potenziometro che gli dava questo effetto di wah-wah. Esatto. Lui è proprio un wah-wah originale di Jimi Hendrix che quella sera aveva, che gli è stato grattato via. Chiaramente. E a proposito di questo disco, lo stesso Hendrix ha detto, all'epoca chiaramente, è una collezione di libere sensazioni e immaginazioni. È innanzitutto un disco che è stato registrato in tre studi differenti. E questo è importante, secondo me. Il primo è stato il D-Line Lay Studios, che è stato il disco, lo studio anche dove è stato registrato, dove registravano i dischi gli Animals. Sì. Poi c'è stato un breve periodo ai CBS Studios, che erano gli stessi dove registravano gli Who, ma poi c'è stato un alterco con il direttore di questi studi, perché Chas Chandler non pagava un po' alla volta. A volta. No? E poi a un certo punto, visto che non riusciva a finire questo benedetto disco, aveva appena fatto il 45 giri ai Joe, è andato alla Polydor Records, ha aperto la porta di colpo e ha detto: ragazzi, qui stanno entrando un bel mucchio di soldi, voglio che mi aprite un conto a mio nome. Ha litigato con questi dirigenti discografici e gli ha detto: o fate così o ragazzi non vi faccio il disco. Gli hanno aperto un conto a proprie spese e in quel momento è riuscito ad andare a registrare agli Olympic Studios, dove hanno conosciuto Eddie Kramer. E lì è nata quasi tutta la magia del resto dei brani. I brani, certo. Già Purple Haze era nato nei CBS Studios. Sì. E poi tutti gli altri, The Wind Cries Mary, Third Song from the Sun, tutte le prime idee musicali di Aerial Experience sono nate lì. Che pezzo hai scelto da questo epocale debutto di Jimi Hendrix? Tra i tanti pezzi creativi che Jimi Hendrix ha impresso, ricordiamo la stessa title track che è stata realizzata con Nastri Contrari, okay. E ho scelto però un brano molto semplice che è stata la prima canzone che ha scritto Jimi Hendrix di pugno suo. Lui voleva registrare come lato B di Hey Joe Land of Thousand Dances, però gli ha detto ciao Chandler, fermo, se devi guadagnare con le edizioni ci devi guadagnare tu, quindi mi scrivi una canzone e la mettiamo come lato B. Si chiamava Stone Free ed è un pezzo con cui anche inizia il famoso film Maledetto il giorno che ti ho incontrato, ed è un pezzo trascinante che è stato registrato in presa diretta, ne parlavamo prima, con l'aggiunta di una chitarra sovraincisa. Appunto, serviva proprio, siccome avevano anche pochi soldi, registriamo in fretta, dai che abbiamo questo pezzo, lo registriamo via. 1967, ok? Stone Free. Sera. Blu Radio Sera. C'è una, un messaggio che è arrivato, io ve lo leggo così come sta. Dice: interessante la trasmissione, mi capita spesso di sentire questi aneddoti dai miei musicisti a fine concerto. Questa è da Lorena che vi fa i complimenti e che vi saluta. Grazie, Lorena. E vi dice che appunto che anche lei è interessata a queste notizie che voi date così su ogni cantante, qualcosa di eccezionale. Bene, siamo molto contenti che Lorena ti ascolti. La ringraziamo e la risalutiamo di nuovo. Chiaramente. Allora, posto numero 15 e adesso il posto numero 14. Tu sei stato a Londra, Agostino, no? Sì, sì. Sei passato anche te per le strisce pedonali? Gianluca? Dunque, io ci sono stato anche il club dove loro suonavano, proprio certo. A Liverpool proprio. Dimmi. Io ci sono stato a Londra, ma non abbiamo fatto in tempo ad andarci. Ah, non sei andato per le strisce pedonali? Sai, mio amico recentemente c'è stato, è un ragazzo che comunque fa parte anche di una web radio veronese, e ha detto: sono stato là, a parte le strisce, a parte l'insegna, non c'è altro. Comunque, no, ma infatti non c'è emozione. Nulla. Sì, me lo cambiano ogni 6 mesi, lo sai le strisce, no? Sì. So che danno il Colore ogni 6 mesi, ma tu devi non vedere le strisce anche al muro d'entrata, sì. Perché tutta la gente ci scrive, no? Sì, ma Gianluca, tu devi vedere proprio la gente che passa appositamente sulla strada, si ferma, si mettono qua e aspettano proprio di fare la foto, si mettono lì, poi c'è il turno, quasi quasi se uno si mette là a fare la, cioè, che ne so, un 50 centesimi per dire, fa un sacco di soldi. Ma guarda, noi l'abbiamo visto a King Cross Station, quando c'era, dove c'è la famosa piattaforma 9 3/4, quella di Harry Potter, no? Ci sono le persone, noi cercavamo, no, per mia moglie, no, sta famosa piattaforma 9 3/4, arriviamo a un certo punto e vediamo sta gente in fila, no, che si fa foto, guardiamo, era proprio lì, pazzesco. Era quella di Harry Potter. Harry Potter, la famosa piattaforma 9 3/4 dove passano il treno che poi sparisce. Esatto. Esiste, è proprio situato in un angolo dove c'è un portoncino di ferro con la porta che va verso la security delle ferrovie, insomma, ecco dove ci sono. Ma mi sa che ho visto la foto tua, sai? C'è su Facebook. Beh, diciamo che album è? È chiaramente Abbey Road. 1969. Stupendo. E dice, all'epoca George Martin disse: fu un disco estremamente felice. Perché? Perché probabilmente tutti pensavano che fosse l'ultimo. Ma in realtà è l'ultimo. Anche se poi non fu l'ultimo per la discografia, però in realtà era l'ultimo. In realtà era proprio l'ultimo, è stata la casa discografica, la EMI, che ha imposto una tregua in un periodo in cui i Beatles erano ognuno proprio a sé stante, litigavano in continuazione. Poi McCartney e John Lennon erano già da White Album, erano veramente agli estremi. Ferri corti. È uscito fuori, perché poi recentemente sto guardando alcune cose su alcuni giornali, che in quel periodo John Lennon, perché poi tutti, no, quando dicono John Lennon, grandissimo artista, un uomo col cuore, ha scritto grandi canzoni, ma ha anche, almeno, poi sai che queste cose sono sempre a metà tra leggenda e realtà, avesse, si dice, anche una grossa dipendenza da droga, insomma. Ecco. Sì, beh, questo è chiaro. Questo è chiaro. In quel periodo già il fatto che avesse incontrato Yoko Ono, che lo stava, diciamo, dirottando verso altri lidi, e era un po' il Beatle più naif, un po' più ribelle, quello che voleva in quel periodo distruggere i Beatles. Abbey Road fu veramente imposto dalla casa discografica perché per esigenze anche di contratto, certo. Avevano appena rinnovato per altri 7 anni e gli ho detto: ragazzi, qua bisogna che facciamo bisogna un fare disco. Qualcosa. E non so, la magia che venne fuori da queste incisioni è ancora oggi oggetto di ricerca. Cosa vera, perché anche George Martin ha detto: è il miglior disco dei Beatles che io abbia mai registrato, quello che preferisco. E sembra strano pensare che tutti pensano che Let It Be è l'ultimo disco, in realtà è un progetto che è stato accantonato, esatto, messo da parte, esattamente così. E poi è arrivata questa cosa qua che già all'epoca era abbastanza avanti coi tempi, perché la facciata B era tutta strutturata concept. Certo, in un periodo in cui il concept era ancora, c'era già un'idea, ma non era ancora un'idea così ben delineata. E l'hanno inventato i Moody, i Moody Blues. Sì. All'incirca, sì. Non con dico... Days of Future Past. Esattamente, quello famoso Night in White City. Days of Future Past fu proprio il disco, il concept album, chiaramente, che ebbe un successo ritardato negli Stati Uniti, perché fu lanciato qualche anno dopo. A proposito del discorso della rottura tra i Beatles, c'è una famosa intervista di John Lennon su Rolling Stone 1971. Parla del suo primo album, Plastic Ono Band, sai, il primo Beatles. Disco da solista, diciamo, melodico. Melodico. E poi in realtà lui ha fatto dei progetti con Yoko Ono, di psicorumoristici. Sì. Un po' particolari, un po' particolari. Usciti fuori catalogo nel giro di pochissimo tempo. E lui ha detto questo. Ora invece, cioè nel periodo di adesso, quindi post Beatles, ora invece scrivo solo per me stesso. E questa è la ragione per cui mi piace questo disco, questa parola di Plastic Ono Band. Sono finalmente io. 2 anni dopo a Abbey Road, quindi mica è passato tanto tempo. Infatti nella canzone di Plastic Ono Band, God, lui riassume tutto ciò che era in quel momento lui. Non certo. credere più nel Nevis, non credere più in Beatles, non credere più in entità superiore. Sono solamente io. Sono solo io, esattamente. Il discorso delle strisce pedonali e dei quattro. C'è il discorso di Paul McCartney che è senza scarpe piedi nudi. E non solo. Allora, perché c'è anche la famosa Volkswagen Maggiolina. È anche quella che cita una data famosa. No, io so del discorso della targa. Sì, della targa. C'è scritto 29 if. Esatto. Se fosse vivo avrebbe 29 esattamente. Anni. Che questo Maggiolino è stato venduto negli anni 80 a un'asta Sotheby's per una cifra considerevole. Sì. Per cui insomma, e poi anche un'altra cosa, un piccolo particolare, che Paul McCartney porta la sigaretta nella mano destra, che lui è tendenzialmente mancino. Esatto, anche quello. Sono tutte cose, ci sono stati parecchi e continua a sfornare libri cosa sulla presunta morte di Paul, vivo e morto. John Lennon ha detto una cosa bellissima, che l'ho letta su un piccolo libretto. Per la storia della morte di Paul abbiamo disseminato indizi ovunque. Esatto. Eravamo a un punto tale che pensavamo che qualcuno in questa maniera potesse ammazzarci, no? Diciamo che è stato, non dico profetico, ma macabramente molto profetico. Esattamente. Sì, al di là del poi queste solito cose sono disseminate anche su altri dischi. Ma continuano. Poi c'è stato un DJ americano che ha cercato, penso, anche facendo girare il contratto di dischi di Beatles da 63 poi. È vero, poi hanno fatto anche l'indagine sul cranio del personaggio. Anche sulla voce di Paul McCartney. Hanno fatto di tutti i colori. Sono anche su YouTube queste cose qua. Possiamo dirlo, fra me e te, sentendo anche quegli ascoltatori sono in ascolto, è un business anche quello, c'è poco da fare. Ma sono quelle cose che vengono create ad hoc per alimentare un mito. Esatto, il mito non muore mai, i Beatles non moriranno mai, mito. Ma tanti artisti sempre. Comunque hanno anche queste altre cose. Leggevo qualcosa sul portale del fan club italiano di Mark Bolan. Sì, mitico di T-Rex. Diceva addirittura, no, siccome sai che Mark Bolan è morto in un incidente stradale, sì, dove la macchina la guidava Gloria Jones, la sua all'epoca compagna, che gli ha dato l'unico figlio a Roland. Mark Bolan non ha mai voluto imparare, anche se in realtà ha fatto delle lezioni di guida con la moglie June, la prima moglie June, dove però a quanto pare è stato un disastro, ha detto io non voglio più guidare, perché diceva che lui sarebbe morto in un incidente stradale. Vedi. Queste sono alcune premonizioni che sembra abbia detto Mark Bolan. Okay. Capito il 1969, ritorniamo al pezzo, Come Together, adesso ti spiego leggermente come è nato l'idea e poi la sviluppiamo. Come Together nacque come inno per la campagna elettorale di Timothy Lear, famoso musicologo, drammaturgo, un po' così, esperto di sensazioni un po' particolari. E teorizzatore dell'LSD. Esattamente, proprio quello, volevo arrivare a quello. Quando questi nel 69 decise di presentarsi alle elezioni per la carica di governatore della California, in diretta concorrenza con un certo signore che si chiamava Ronald Reagan. Chiaramente si sa come andò a finire. Che vinse Ronald Reagan. Chiaramente vinse Ronald Reagan. Però questa era l'idea di Come Together. Musicalmente, come lo giudici? E giudichi Come Together? Rock and roll. Rock and roll. È molto John Lennon, meno McCartney. Molto duro, con questo giro di chitarra, questa amplificazione pesante che logicamente è nel mio mood. E poi era anche il periodo in cui i Beatles si facevano influenzare dai Cream, sì, dall'Experience. E negli ultimi dischi dei Beatles si sente tantissimo la chitarra distorta, mm-hmm, che è una prerogativa che aveva John Lennon con la sua famosa Epiphone. Quella che aveva sverniciato e che aveva e che oggi è anche disponibile come Epiphone Revolutionary. È un modello che fabbrica la Epiphone e che è disponibile tra le tante chitarre che è in catalogo. È stata proprio intitolata Revolutionary perché è la chitarra che John Lennon, si vede nel filmato, utilizza per Revolution, la versione quella elettrica pesante. Statisticamente Come Together venne pubblicata come singolo nell'ottobre del 69 negli Stati Uniti e raggiunge le vette delle classifiche americane. In Inghilterra arriva solo quarta, era retro di Something. Beh, Una canzone che Something, che è stata definita da Frank Sinatra la più bella canzone del secolo, secondo lui. Del secolo. Sentiamo Come Together. Sentiamo Come Together. Okay. Abbey Road, Beatles, Come Together. La canzone che apre l'intera produzione di questo disco. Down to his knee. Got to be a Sempre la classifica della rivista americana Rolling Stone, stiamo arrivando veramente verso le canzoni più amate, diciamo, dai giornalisti, sì, di questa rivista. Critici, sì. Questa è sempre Blu Radio Veneto, questa è sempre la fascia oraria chiamata Blu Radio Sera, anche se siamo alle 23.10, la voce è quella di Agostino in questo momento, ma c'è Calzavara e Merlin, cioè Maurizio e Gianluca, che stanno facendo veramente una cosa mostruosa, secondo me, perché siete bravissimi, ci date tante di quelle informazioni che... È una cosa particolare. Velvet Underground, Gianluca. Cercammo di fare una cosa alla Phil Spector col minor numero di strumenti possibili, disse John Cale, grande violinista e grande produttore e grande baruffone con Lou Reed. Sì, sì, si baruffarono in continuazione. Ma hanno anche collaborato. Ma hanno fatto le cose meravigliose. Famoso disco dedicato a Danny Warhol. Velvet Underground and the Nico. Posto numero 13. Epocale. Questo è stato un disco epocale. Ma secondo me è stato riscoperto da una ventina di anni, perché io non avevo mai sentito parlare di Velvet Underground. Poi sento di questa reunion, avevo sempre sentito parlare di Lou Reed, ovviamente. Poi sento parlare di questa reunion e da lì in poi tutti a parlare di Velvet Underground. Di questo disco, ovviamente, poi ne ho letto, riletto la famosa banana sbucciabile, certo, di Warhol, eccetera, eccetera. No? La collaborazione con questa cantante tedesca dalla voce un po' maschile, Nico. All'epoca chanteuse dei Velvet Underground, non si sa cosa. Molto amica di Jackson Brown, non so sapere. So, io anche amante, dicono. Sì, beh. Amante nel senso, all'epoca, nel senso musicale del termine. Via, via. Musa di parecchi artisti. Io l'ho vista anche in una foto a Monterey 67 con Brian Era Jones. Molto brava però, Molto molto brava. E una cosa che ho visto però 10 anni dopo, quel periodo in cui ha cominciato a fare un po' di dark wave così, sì, e che è stata citata da molti artisti, tra quali Suzy and the Banshees, una cosa incredibile: lei ha aperto il concerto di Suzy and the Banshees nel 68. Sai che quello è il periodo in cui la gente, se non ti gradiva, ti tirava l'ira di Dio. Certo. A lei è stato tirato di tutto, suonava un harmonium ed è andata nel backstage. Era il periodo in cui anche si spadava parecchio, mi ha detto che è un termine, e dai capelli non riusciva a staccare neanche la gomma da masticare. Ne ha dette di tutti i colori al pubblico, lasciamo perdere, insomma, poi lei ha avuto una fine tremenda. Sì, purtroppo sì. Eccetera, eccetera. Però una cosa semplice di questo disco, dimmi. Si dice che lo abbiano comprato 20 persone, ma quelle 20 persone erano 20 geni. Vero? Sono d'accordo con te. Credo che uno sia stato David Bowie. Certo, sono d'accordo con te. Ricordiamo che è stato ideato, prodotto e dal punto di vista economico da Andy Warhol, ha fatto tutto un altro Andy genio. Warhol si è preso a cuore questi artisti che suonavano nei club, nei locali, però facevano il vuoto nel giro di pochissimo tempo, al che li ha visti, ha detto, li ha trovati strani, carini, ha detto, li faccio suonare nelle mie festicciole, no? Però dobbiamo pensare che quello era il periodo di pace, amore, 67. Quindi noi pensiamo sempre al lato floreale, quindi alla California, al sole, ai figli dei fiori. Nella parte est invece East Coast, questa qua. Questa era l'antitesi. Sì. L'East Coast non era come la West Coast, no. Quindi tutti belli, felici, pace, amore. L'East Coast era New York, era una città buia, era un qualcosa di molto diverso. I testimoni di quegli happenings dicono che nella West Coast utilizzavano la marijuana, noi utilizzavamo l'eroina. Nella West Coast c'erano i fiori, c'era il sole, quindi c'era il grigio, c'era il buio, le feste non erano voglio dire adornate di fiori, erano feste dove trovavi gli slogan, dove trovavi l'arte dadaista, e, insomma, queste cose un po' da beatnik, questi personaggi un po' vestiti di nero con tutte queste diciamo non come i figli dei fiori, quindi questi proclami, questi dipinti, loro avevano proprio questi slogan un po' tenebrosi, avevano quindi poetiche macabre, lugubri, molto diverse da quello che erano, da quella che era poi stata la nuvola, l'immagine che abbiamo noi dell'estate dell'amore. È una cosa diversa, giustamente, come tu hai detto. Lato oscuro, sì, lato oscuro. Del flower power. Ma il lato oscuro di un genio. Sandy Money abbiamo scelto. Un pezzo che è rimasto sempre dentro, un carillon bellissimo, un pezzo epocale. Che è stato rivalutato anche nella pubblicità. Sì, non è stato nella pubblicità. Non facciamo il nome, però è stato. Però è un pezzo meraviglioso. Adatto, semplicissimo, ma meraviglioso. Magari in riva alla spiaggia, sì, con questo mare che ti sta cullando. Vai, Agostino. Va bene. Ok. Sunday morning. done it. It's just a restless feeling by my side. Early done it. Sunday morning. It's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday Blu Radio. Dai colore alle tue frequenze. Ragazzi, la voce di Nico era la voce di Nico, Era perfetta per questo pezzo qua, c'è niente da dire. Cosa dici, Gianluca? Addirittura sembrava una voce maschile, aveva questa voce profonda e... Non so che dire. Sono tante cose da dire dei Velvet Underground, di questo disco epocale, però il tempo è quello che è, quindi dobbiamo velocizzare e arriviamo a un mostro in assolutamente, musicalmente, il migliore. Mr. Miles Davis, migliore in senso assoluto. Sicuramente uno che ha cambiato il modo di vedere il jazz. Prima il jazz era, diciamo, Louis Armstrong. È arrivato lui e ha destrutturato il jazz, lo ha fuso con la musica rock, addirittura mettendo dentro Stockhausen, un po' di tutto, e ha scoperto grandi artisti quali Keith Jarrett, Chick Corea, più ne mette, insomma, ecco. Quindi un artista che viene considerato in assoluto un grande genio, scomparso alcuni anni fa, perché ha lasciato delle tracce indelebili, si può dire così. Sì, addirittura si parlava all'inizio degli anni 70 di una sua probabile collaborazione addirittura con Jimi Hendrix. Poi cose che non si sono fatte, insomma. Tu hai un collegamento. Lui poi ha soldato John McLaughlin. Mica uno da qualsiasi. Esatto, poi Malavis New Orchestra, certo. eccetera. Tu hai un collegamento da dire e poi ci siamo il pezzo. Allora, pur non essendo un grande ascoltatore di jazz, però Kind of Blue è stato fondamentale per quei musicisti rock che hanno avuto un passato jazz. Richard Wright di Pink Floyd ha ricordato che quando stava componendo al pianoforte la parte proprio di pianoforte di Breathe in the Air, ha pensato a Kind of Blue di Miles Davis, stava pensando a un accordo, stava suonando questo brano, e a un certo punto ha cambiato la nota che stava suonando e ha trovato finalmente la chiave che gli serviva per poterla registrare poi nel disco The Dark Side of the Moon. Chiaro, e non un disco qualsiasi. No, anzi, uno dei più grandi dischi della storia. Esattamente, che è rimasto in classifica non so per quante settimane in Billboard. 364 settimane, ecco, nella classifica americana. Pare che una fabbrica in Germania abbia stampato dischetti argentati per un anno di The Dark Side of the Moon per tenere dietro gli ordini. Incredibile. Sentiamo il pezzo di Miles Davis, ti ricorda il titolo? Dimmi. Blue in Green. È Blue in Green, ok.

Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Questo è Kind of Blue, un disco del 1959 di Miles Davis, quindi molti anni fa, ancora attualissimo. Diamo velocemente e passiamo a un mito, ma questo è proprio un mito da 500 milioni di copie nel mondo, si chiama Elvis Presley. Cosa ha fatto? Ha fatto di tutto. Ma diciamo che sintetizzando velocemente... Ti do 2 minuti di tempo, via, sintetizza. Uso le parole di Ringo Starr. Oh, perfetto. Lui ha detto che quando ha sentito Bill Haley sembrava di sentire suo padre, no? Però ha detto che Elvis è stata la prima volta che la musica rock and roll proveniva da un giovane. Ecco, vedi. Che... la dice già lunga sul fatto di come è riuscito ad influenzare le persone giovani dell'epoca, proprio perché era un personaggio giovane tra i giovani e comunicava con i giovani nel linguaggio dei giovani. Solo Chuck Berry è riuscito. Sì, esattamente, solo Chuck Berry. In Italia c'è Celentano che sì, cercava di emulare, di emularlo praticamente, e guidato dal mitico colonnello Parker, quello che poi lo ha spremuto proprio ma al massimo che poteva. Quanti milioni di copie ha venduto? 500, si parla di 500 milioni di copie, una cosa, beh, è stato quello incredibile. Che ha svoltato la musica. Sì, chiaramente senza Elvis non ci sarebbe stato niente. Ha tradotto, diciamo, la musica nera per i bianchi. È vero. Sì. Sam Phillips, quello della Sun Records, quando ha detto: se riesco a trovare un ragazzo bianco che canta come un nero, faccio i soldi. Ne ha fatti tanti. Ok, abbiamo scelto In the Ghetto. Sì, una canzone, una ballata bellissima. Sì, una ballata meravigliosa. 1968. E 68 è stata anche lanciata in Italia da Michele. E sì, non solo, poi l'hanno cantata in tanti. Sì, l'hanno fatta in tanti. Però Michele aveva una voce molto similare. Molto baritonale. Ma esattamente. Anche Willie Nelson l'ha fatta poi in inglese. Sì, ma parlavo di Italia. Italia. Michele aveva una voce molto vicina, anche se i famosi Little Tony o Bobby Solo. Però Michele aveva una bella voce. Vai, cosa dici? Ok, ascoltiamo. Sì. As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto, and his mama cries. 'Cause if there's one thing she don't need, it's another hungry mouth to feed in the ghetto. Now people, don't you understand? Your child needs a helping hand. He'll grow to be an angry young man someday. Now take a look at you and me. Are we too blind to see? Do we simply turn our heads? Well, the world turns, and a hungry little boy with a runny nose plays in the street as a cold wind blows in the ghetto. And his hunger burns, so he starts to roam the streets at night, and he learns how to steal, and he learns how to fight in the ghetto. Then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, steals a car, tries to run, but he don't get far, and his mama cries. As a crowd gathers round, an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. And as her young man on a cold and gray Chicago morning, another little baby child is born in the ghetto. And his mama cries. Elvis Presley era all'undicesimo posto in questa classifica stilata dai giornalisti della rivista Rolling Stone. Noi quindi stiamo per entrare nella fase caldissima, cioè gli ultimi dieci, o meglio dal decimo al primo posto. Quindi stiamo arrivando alle cose più famose, più gettonate, più ascoltate. La famosa zona calda, bravissimo Gian. Sì, il disco di Elvis si chiamava Sunrise, uno dei tanti raccolte. Noi abbiamo scelto in The Ghetto, cioè le cose sono state tantissime di Elvis. Undicesimo posto, Sunrise, 1976. Giriamo pagine e arriviamo nei primi dieci, Gianluca. Esatto. Perché una copertina solo bianca? Cosa dici? Io sapevo che quello che ha fatto l'artwork di questo disco ha chiesto ai Beatles: ma voi l'avete mai avuto un disco che si chiama The Beatles? No, ha detto, beh, lo facciamo. Gli ha fatto questa copertina bianca, gli ha detto facciamo così. Tu ti ricordi, la copertina bianca, anche quella fece epoca. Certamente, perché fu la prima copertina fatta in questa maniera. Esattamente, un disco doppio all'epoca. Dicono che ci sia tutti i Beatles in questo disco praticamente. Tutti i Beatles, ma ognuno per sé. Ognuno per sé, sì. Quattro entità, sì. Ringo un po' così, so. Quattro entità differenti. Sì, si dice che Ringo abbia suonato pochissimo, sì. Che fosse in vacanza in Sardegna. Sì, perché in vacanza, poi ha fatto, ci sono state delle discussioni, poi è stato richiamato, eccetera. Sì, è un disco dove ci sono stati tanti litigi, ce ne sarebbe da dire. Esattamente. Ma veramente. Però adesso abbiamo subito un primo pezzo che tu hai scelto. E un momento, solo due secondi per dire com'è nato. Certo. È un pezzo di George Harrison questo qua. While My Guitar Gently Weeps. George stava leggendo un libro cinese dei cambiamenti e decise di applicare i principi in esso esposti nell'arte del comporre canzoni in casa dei propri genitori nell'Lancashire, sì, e prese un romanzo da uno scaffale della libreria con l'intenzione di scrivere una canzone basata sulle prime due parole delle quali si fosse battuto nel libro. Queste erano Gently Weeps, piange desolatamente. E così George si mise a scrivere. Il pezzo è del 1968. Perché ti è piaciuto tanto? Perché è un pezzo di George Harrison? Perché è un grande pezzo? Oppure... Perché è un pezzo che ha una chitarra strepitosa. Ecco, esattamente. Qui c'è ospite un certo Eric Clapton che fa questo solo meraviglioso. È stata una delle prime, diciamo la prima ospitata di Eric Clapton, che già comunque aveva avuto contatti con i Beatles, dato che i due, George Harrison e Eric Clapton, collaboreranno anche per l'ultimo disco dei Cream. Certo. George Harrison, sotto mentite spoglie, ha scritto Badge. È vero, verissimo. Uno degli ultimi brani dei Cream del 69. Ok, allora andiamo con l'album bianco, con questo pezzo qua. Ok. che bello, che bella. Era tanto tempo che non la sentivo più, eh. Sempre un grande pezzo rock. George Harrison e Eric Clapton sono due grandi personaggi. Sì, ecco, George Harrison da solista mi piace o non mi piace. Mm. Il George Harrison nei Beatles che ha fatto canzoni mi piace tantissimo. C'è poi un'altra canzone che non è mai uscita su, neanche sui dischi solista, che doveva comparire nel famoso disco da solista Wonderwall Music, sì, quello famoso, che è stato realizzato con i Remo 4, che si chiama In the First Place, e che è venuta fuori negli anni 90. Secondo me è quella la canzone più bella che lui ha scritto Harrison, con dei grandi musicisti poco conosciuti come i Remo 4, che erano di Liverpool e che avevano iniziato più o meno come i Beatles a suonare. Grandissimi musicisti. Quel famoso disco che tu hai citato era un oggetto da collezione, poi è stato ristampato, il primo album di Harrison. Quello sì, è stato ritirato dopo pochissimo. Sì, esattamente, perché il successo era... Sì, un disco sperimentale, esatto, con certi indiani che piacevano tanto a Harrison. Ma questo brano, In the First Place, psichedelico, melodico, l'ho fatto ascoltare dei ragazzi che mi hanno detto Blue Jay Way. No, non è più o meno simile, però ha questa melodia, questo effetto phasing che veramente m'ha trascinato. Ho detto, questo è il pezzo più bello che ha scritto Harrison, forse più degli altri, più di My Sweet Lord, ma è il pezzo psichedelico più bello che ha scritto, punto. Adesso passiamo a un altro pezzo dell'album bianco, abbiamo scelto Blackbird. Vi do un momento, una spiegazione. Queste notizie le trago da un vecchio libro della Tarab Edizione, La vera storia dietro ogni canzone dei Beatles, in questo caso. Velocissimamente, esistono due storie riguardanti Blackbird e la genesi di questo pezzo, Blackbird di Paul McCartney. Uno dice semplicemente che Paul, svegliatosi un mattino, udì un merlo cantare, prese la chitarra e trascrisse il suo canto e lo trasformò in un brano che finì sullo White Album. L'altra, un po' più complicata, suggerisce che il brano fosse stato ispirato alle notizie relative alle tensioni razziali negli Stati Uniti e considerava il mello con le ali spezzate che cercava di volare come una metafora sulle minoranze razziali. Tu hai sentito la seconda versione, questa versione qua, parlavi del mello spezzato oppure le ali spezzate? Ma io conosco Blackbird perché quando Paul McCartney fece quel famoso Unplugged di New York, sì, suonò anche questa canzone qua. È una canzone molto semplice, è il classico modo di lavorare di Paul McCartney, che si sveglia la mattina, intona una melodia e scrive una canzone. Ha fatto la stessa cosa con Yesterday, certo, ed ha venduto, ed è ancora oggi, viene considerata la canzone più trasmessa nelle radio americane e anche nel mondo. Chiaramente. Blackbird, Beatles. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arrive. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You are only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly, into the line of a dark black night. Blackbird fly, blackbird fly, into the light of a dark black night. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. Blu Radio, dai colore alle tue frequenze. White Album numero 10 delle classifiche di Rolling Stone, redatta nel 2003, quindi un po' datata, ma sempre valida. Cosa dici? Beh, un disco dei Beatles. È sempre valido. È sempre un disco dei Beatles. Sempre un disco dei Beatles. Questo poi è un disco doppio e sì, è molto difficile. Io ho avuto la possibilità di ascoltarlo. Non tutte le canzoni magari sono diciamo all'altezza, però in Italia magari conosciamo Bla Dia Bla Da perché è stata rifatta dai Ribelli. E, oppure anche Why My Guitar Gently Weeps, certo. Oppure c'è quell'esperimento un po' strano che George Martin non voleva, che era Revolution 9. Era il classico esperimento psicorumoristico che vedeva John Lennon giocare con i nastri al contrario, eh. Non lo voleva, però già allora Yoko Ono cominciava ad avere quella influenza che è dispiaciuta a molti, perché essendo un artista molto particolare, è stata allieva di un professore, Gustav Metzger, che è stato professore anche di Pete Townshend degli U nella scuola d'arte. E Gustav Metzger era un teorizzatore dell'arte di decostruzione. Cioè lui, non so, strappava una tela, tagliava gli vestiti a Yoko Ono. Aveva questa idea che è entrata in Yoko Ono e che poi è entrata in John Lennon e che poi sappiamo cosa ha prodotto. Chiaramente. Ok, sono le 23:44, abbiamo ancora un po' di tempo e passiamo a un altro album doppio. Fu il primo album doppio fatto da un artista rock, tra virgolette. È un artista rock, è un Bob artista Dylan. Bob Dylan, Mr. Zimmerman, 1966, Blonde on Blonde. Blonde on Blonde, disco doppio meraviglioso. Qui c'è anche un brano che occupa un'intera facciata. Esattamente, esattamente. Una volta si usava i dischi doppi, adesso disco registrato con The Band. Grande. The Band è stato un supporto fondamentale per Dylan. Cosa musicisti dici? Di grande esperienza, erano partiti con il rock and roll, erano musicisti che partivano addirittura dal country, dalla musica popolare americana, sono passati al rock and roll con Ronnie Hawkins, poi hanno fatto blues con Sonny Boy Williamson. Sonny Boy Williamson poi è morto, hanno suonato con Hammond Jr. Sì. E poi Hammond Jr. li ha presentati a Bob Dylan, ha detto: guarda, questi sono ragazzi meravigliosi, sono un po' canadesi, uno è americano, ha suonato insieme. Dylan ha talmente influenzato questi ragazzi che poi si chiameranno The Band, certo. E lo inviteranno, lui che era in quel periodo qua di Blonde on Blonde una superstar, aveva appena fatto la svolta elettrica, era in un momento di grande apoteosi, tanto da far uscire Blonde on Blonde senza neanche il titolo. Sì, era talmente famoso, era talmente all'apice, i giornalisti praticamente gli correvano dietro, che ha detto: faccio uscire il disco senza neanche il titolo, tanto sono a Bob Dylan, posso fare quello che voglio. È vero. Idea che poi erano ripreso le Zeppelin, vero. Con il numero 4. Nel 78, a proposito di questo disco, Dylan dichiarò: la volta che più mi avvicinai al suono che ho in testa, sottile e sfrenatamente mercuriale. Lo disse 12 anni dopo questa dichiarazione. Era il Dylan con il pedale al massimo, sicuramente. Poi c'è stato l'incidente, la sua tranquillità, un altro Dylan. Tu hai scelto Just Like a Woman, che è un pezzo meraviglioso, un pezzo classico. Famosissimo, un classico dei classici. E recentemente è stato un concerto a Padova, Dylan, non mi pare che l'abbia eseguito però. Sì, ma ogni tanto cambia le scalette. Sì, lui è un po' particolare. Just Like a Woman, ragazzi, Dylan, Nobody feels any pain. Tonight as I stand inside the rain, everybody knows that baby's got new clothes, but lately I see her ribbons and her bows have fallen from her curls. Takes just like a woman. Yes, she does. She makes love just like a woman. Yes, she does. And she aches just like a woman. But she breaks just like a little girl. She's my friend. Yes, I believe I'll go see her again. Nobody has to guess that baby can't be blessed. till she finally sees that she's like all the rest, with her fog, her amphetamine, and her pearls. She takes just like a woman. Yes, she makes love just like a woman. Yes, she does, and she aches just like a woman. But she breaks just like a little girl. It was rain from the first, and I was dying of thirst, so I came in here. And your long time curse hurts, but what's worse is this pain in here. I can't stay in here. Ain't it clear that I just can't fit? Yes, I believe it's time for us to quit. And when we meet again, introduced as friends, please don't let on that you knew me when I was hungry and it was your world. Ah, you fake just like a woman. Yes, you do, you make love just like a woman. Yes, you do, then you ache just like a woman. But you break just like a little girl. Radio Sera. Blu Radio Sera. Ok, abbiamo sentito da Blonde on Blonde Just Like a Woman, un pezzo mitico, storico. Perché è tanto bello questo disco? Perché è una svolta, chiaramente. È pieno di idee, sì. Da, come tu giustamente hai citato, quel pezzo che occupa l'intera facciata, ed altre cose molto interessanti. Dylan sì, elettrico, ma Dylan anche non elettrico. Di solito anche il Dylan acustico, perché acustico. Periodo tanti magari ancora non amavano il Dylan elettrico, poi lui cercava di accontentare i fan vecchi, i fan nuovi. Beh, insomma, esatto. È sempre una grande controversia questa. Sì, 66, quindi un disco che ha un po' di anni, però non è per niente datato, un disco ancora godibile. Ma ancora... i dischi di Dylan degli anni 60 sono i classici, i critici dicono sempre, ma sono i migliori, perché certo. Il Dylan che è esploso, poi vabbè, ha fatto qualcosa di buono anche negli anni 70, qualcosa di discreto negli anni 80, e poi vabbè, insomma, Dylan, si può dire non dire, sì, l'Unplugged mi è piaciuto tantissimo. Molto bello, molto interessante. Poi abbiamo scelto I Want You. A tal proposito, Al Kooper, mitico Al Kooper, che ha suonato in questo disco. Organista fantastico. Produttore poi, sì, degli artisti Southern, quelli di Nina Skinnard. E continuavo, dice Al Kooper, continuavo a ripetere, dai facciamo I Want You, ma Bob continuava a rimandare solo per non darmi soddisfazione. Sapeva che l'avrebbe fatta, ma io continuavo ad insistere perché avevo un sacco di idee per l'arrangiamento, avevo paura che non l'avremmo mai incisa. Lui però continuava a dire no, finché l'ultima notte lo inseguì e lo insegnai ai musicisti prima che lui arrivasse. Quando si presentò mi disse, mi sono preso la libertà di insegnare loro I Want You, e lui mi sorrise e disse va bene, sì, possiamo farla. Questa è la storia. Un osso duro Bob Dylan, lo devi affrontare di petto perché è sempre stato un personaggio molto grezzo. Sì, esattamente, molto duro. Io ho parlato con Deborah Cooperman, che è una musicista folk singer americana che vive a Villafranca, e lei, quando era una ragazza giovane, è andata a suonare a Greenwich Village, e lei mi ha detto: io ho incontrato Bob Dylan all'epoca, era un personaggio grezzo, rozzo, ha detto, e sapeva suonare neanche finger picking, ha detto, gli sa fare solamente gre gre gre gre, ha detto e basta. La famosa me l'ha descritto proprio come un personaggio poco di buono. La Deborah Cooper è quella che ha suonato in Folk Beat numero 1 di Francesco Guccini. Sì, poi lei ha suonato anche il banjo in un disco di Patti Pravo. Certo. Ha aperto insieme a Guccini l'Osteria delle Dame, ha incontrato, mi ha raccontato che ha incontrato molti folk singer dell'epoca, John Sebastian, José Feliciano, Peter Tork, anzi mi ha detto che Peter Tork abitava sopra nell'appartamento sopra il mio, ha detto lo conoscevo quando suonavamo in questi localini, no? Mettevamo il cappello con un po' di soldini. È stato un gran personaggio, veramente, ascoltarla, potreste ascoltarla per ore, perché certo, è veramente un artista che ne sa tantissimo. E Ti voglio, I want you, Ti voglio è la versione italiana fatta dai Nomadi, il testo è di Giorgio Calabrese, un grande musicista e un grande paroliere, possiamo dire questo, cosa dici? I Nomadi hanno avuto la fortuna di avere sempre buone canzoni. Sì, perché diceva Augusto all'epoca che i Nomadi sceglievano sempre le cover un po' particolari, non sempre le stesse cover importanti, le cover particolari, fatte in maniera diversa. Ma poi perché anche lui era un personaggio molto carismatico. Esattamente. I want you, Bob Dylan, vai! Undertaker sighs, the lonesome organ grinder cries, the silver saxophones say I should refuse you. The cracked bells and washed out horns blow into my face with scorn, but it's not that way, I wasn't born to lose you. I want you, I want you, I want you so bad. Honey, I want you. The drunken politician leaps upon the street where mothers weep, and the saviors who are fast asleep, they wait for you. And I wait for them to interrupt me drinking from my broken cup and ask me to open up the gate for you. I want you, I want you, yes, I want you so bad. Honey, I want you. Now my fathers, they've gone down, true love, they've been without it. But all their daughters put me down, cause I don't think about it. Well, I return to the Queen of Spades and talk with my chambermaid. She knows that she's not afraid to look at her. She is good to me, and there's nothing she doesn't see. She knows where I'd like to be, but it doesn't matter. I want you, I want you, yes, I want you so bad. Honey, I want you. Now your dancing child with his Chinese suit, he spoke to me, I took his flute. No, I wasn't very cute to him, was I? But I did it because you lied, and because he took you for a ride. Because time is on his side, and because I want you. I want you, yes, I want you so bad. Honey, I want you. Blu Radio Veneto, il Veneto come non l'hai mai sentito. sempre sintonizzati con Blue Radio Veneto, sempre sintonizzati con questa meravigliosa classifica tratta dalla rivista americana, come ripeto, Rolling Stone, sempre sintonizzati con le voci di Agostino in questo momento, ma soprattutto con le voci di Maurizio Calzavara e di Gianluca Merlin, che ci stanno facendo veramente conoscere tanti di quegli aneddoti che non vi dico, insomma. E poi sono veramente bravi nel specificare qualsiasi cosa inerente al personaggio cantante o alla band. Abbiamo parlato di Bob Dylan, adesso parliamo del numero 8, Gianluca. Qualcuno dice hanno superato il punk, sono andati oltre il punk, i Clash. Certamente, un gruppo 1970. Che si è contraddistinto nella musica punk, anche se loro non erano propriamente punk. Non erano propriamente perché punk. Avevano inserito nella loro musica svariate influenze. Certo. Dal rock and roll fino ad arrivare addirittura al reggae. Soprattutto il reggae, una influenza molto importante. Perché a Londra in quell'epoca, in cui gli artisti punk giravano in questi locali un po' malfamati, si trovavano ovviamente con persone del loro status sociale, e tanti emigranti giamaicani che affollavano i quartieri periferici di Londra spesso si incontravano nelle feste assieme ai punkers. Sì, e ne è nata questa miscela, possiamo dire, tra artisti reggae e artisti punk. I Clash hanno colto al volo questa cosa qua e l'hanno inserita nel loro disco, cosa che faranno in maniera molto più marcata artisti come gli Specials e come soprattutto i Madness. Certo, soprattutto i Madness, sì. Dobbiamo considerare che questo era un doppio mitico album, anche questo è un doppio album. E poi ci sarà Sandinista nel 79. Che è triplo album. È triplo addirittura. È un po' difficile come dire. È strano perché solitamente gli artisti punk andavano o con i 45 giri, esatto, o con l'unico disco e poi si scioglievano. Abbiamo i Ramones, 2 minuti e 5, 2 minuti e 10, era la tipologia della durata dei dischi punk. Poi soprattutto i Ramones non dovevano superare mai i 3 minuti, no, perché erano americani. No. Erano americani, sì, però era una considerazione così. Il disco punk si doveva fare entro i 3 minuti. E non doveva durare, cioè il 33 giri era proprio il canto del cigno della band, come è successo ai Sex Pistols, ai Adverse, a tanti gruppi che... Vuoi perché girava tanta droga, vuoi perché era musica nichilista, la filosofia era quella del brucia e sbrucia in una vampata e poi sparisci. I Clash sono riusciti a durare stranamente, forse perché erano un gruppo talmente diverso, talmente originale, e poi soprattutto erano anche politicamente schierati, sì, certo, avevano un loro modo di fare, e a un certo punto nel loro ultimo periodo hanno cercato anche di allargare la propria base suonando in America di spalla agli U, e sono diventati molto famosi in America, però anche è stato il loro canto del cigno, sì, perché loro che erano sempre stati indipendenti suonavano nei locali dove la gente ti guardava dritto in faccia, erano arrivati a un punto che le due anime della band, Mick Jones e Joe Strummer, stavano andando in due direzioni, esattamente, diverse. Cominciamo subito allora a presentare il pezzo che dà la title track, una volta si diceva così, la title track, London Calling, un pezzo strepitoso, London Calling. I live by the river, says he's coming. The sun's zooming in. Engine's stopping it. The wheat is going thin. A nuclear arrow. But I have no fear. Cause London is drowning out. Some of it was true. London calling at the top of the dial. And after all this, won't you give me a smile? London calling. I never felt so much alike. È mezzanotte e 4 minuti. Abbiamo sentito London Calling, un classico dei classici, uscito in Inghilterra nel dicembre del 79 e approdato negli USA nel gennaio dell'80. Importante la copertina, Gianluca. Perché è importante la copertina? Perché la copertina di London Calling è la parodia, se vogliamo, una versione rovesciata del primo disco di Elvis Presley. Che era del 56. Esatto. Infatti la scritta London e la scritta Elvis sono tutte e due in rosa, la scritta Calling è in verde, la scritta Presley è in verde, ma nella copertina dove Elvis Presley compariva nella fotografia aveva una chitarra e stava cantando. Esattamente. Nella copertina di London Calling Paul Simon sta sfasciando il passo. Sul passo, sul palco. Rovesciamento del concetto. E è un'immagine iconica che è rimasta nella storia e che guarda caso ha ricollegato con gli Who, che poi hanno voluto i Clash come opening act nei loro concerti dell'82. Esattamente. Cosa hai scelto secondo pezzo da London Calling? Un brano particolare, perché poi quando si dice London Calling, no, lo chiedi ai ragazzi, ti dicono sempre la title track. Certo. Mi è capitato un giorno, perché non lo ascolto tantissimo, però mi è capitato di ascoltare questa Rudy Can Fail. Perché? Perché parlavamo prima delle influenze reggae dei Clash. Questo è proprio un brano che ha anche i fiati. È strano sentire in un gruppo punk i fiati. E secondo me è uno dei brani che ha dato il là poi a questo ska revival di gruppi come gli Specials e i Madness. Infatti, i fans dei Madness e i fans degli Specials sentiranno qualcosa che è molto vicino a questa canzone. Ok. So crude and I Ok, ci siamo. Antesignani, ska rock, ripetiamo, vuol dire Madness hanno imparato molto. Se già dal 77 avevano incluso una cover che era Police and Thieves di Junior Mervin, certo, te la dice lunga. Ok, questo era il posto numero 8 e passiamo al posto numero 7. È un posto del 2003, però recentemente sono ritornati in classifica con questo album, vero Gianluca? Exile on Main Street. Sì, sono stati per il 40esimo anniversario, ristampati in edizione deluxe, con libretto, con libro. Anniversario, se non approfitti di quel momento. 72 si sono andati in esilio in Francia per motivi fiscali. Esatto, perché sennò dovevano pagare e tasse in Inghilterra, le tasse anche gli guadagni. Esatto. A un certo punto ha detto ci dispiace, ma dobbiamo andare là. E secondo te Keith Richards ha detto che questo è stato il primo disco grunge? Ma non so. Anche perché innanzitutto è stato un disco più di Keith Richards, sì, che non di Mick Jagger e del resto della band. E poi perché è stato influenzato tantissimo dal country. Sì, Grand Parsons, Dochet. Sì, perché era un grande amico di Keith Richards. Di tutto. Drogas, bronze, eccetera. È un grande Grand Parsons, quello di Burst, della svolta Burst, country. Il periodo di Sweetheart of the Rodeo. Esattamente. Poi fondatore di Flying Burrito, certo, Brothers. E poi è stato da solista quello che ha dato il là per il New Country. È vero, che oggi sono tutti. Tutti hanno imparato da lui. Sì, prima si cantavano le classiche canzoncine, chitarra, voce, violino. Lui è arrivato, ha messo il rock and roll nel country ed è stata là che oggi puoi ascoltare Jessica Simpson fino a Shania Twain. Certo. Tutti hanno in certo senso sono partiti da quell'input. Da Grand Parsons, e molti non lo sanno. È quello il discorso. Molti non lo sanno. E dici Grand Parsons. Non lo sapevo. Ritornando al disco dei Rolling, questo era un mitico doppio album. Sì. In vinile. Ma quanti mitici doppio album abbiamo sentito stasera? Perché era un periodo creativo. È un periodo creativo, una copertina un po' particolare, con un sacco di facce in bianco e nero, mi pare. Sì, che ricorda molto in futuro Actum Baby degli U2. Esattamente, è una cosa giustissima. Non so se gli Actum Baby, quello che ha fatto la copertina Actum Baby, Corbin, si è ispirato a loro, ma può darsi, non si sa. È un amante del bianco e nero Anton Corbin, quindi. Quindi può darsi che si sia ispirato. Beh, insomma. Abbiamo scelto il singolo, che è un pezzo, il più famoso pezzo di questo album, che non ebbe molto successo all'epoca, molto amato dalla critica ma poco dal pubblico. Tumbling Dice. Esatto, lo sentiamo assieme, ok? Oh, Eccoci qua, questo era il singolo che ebbe molto successo, però mentre a microfono spento io parlavamo, io e Gianluca, non ebbe successo l'album, successo che andò nel tempo. Della critica lo osannò, cioè i fruttori di musica non lo comprarono così come forse perché non c'erano canzoni così immediate. Esattamente, non c'erano canzoni immediate. Ripeto, fu fatto in Francia, nella villa di Keith Richard, che è una delle tante ville. Lui si trasferirono tutti in Francia, come abbiamo detto, per motivi fiscali. Esatto. E incisero questo album, questo doppio storico album. Poi adesso tu hai scelto un pezzo che è un pezzo relativamente country, ma tu l'hai sentito nella versione dal vivo, non è per niente country. Poi diciamo che diventa trascinante, addirittura stavo ascoltando questo bootleg dal vivo e si sentiva proprio la voce di Mick Jagger, la chitarra di Keith Richards e poi il resto della band che girava a mille e la gente che batteva le mani. Questo è un pezzo veramente trascinante, dal vivo diventava, si trasformava. Ora non l'ho mai ascoltato in versione da studio, ma dal vivo mi ha colpito in una maniera incredibile. Ripetiamo una cosa che abbiamo già prima detto, che questo era un disco più che altro di Keith Richard, che non di sì Mick, sì, Jagger. Infatti è influenzato, voleva ritornare proprio alle radici blues, country. Da qui si capisce che i dischi dei Rolling Stones non sono mai nati da dischi diciamo più belli, certo, non sono mai certo. Nati da una sola mente, no, ma tante menti messi insieme. Infatti loro sono ognuno ha un proprio compito all'interno della band, l'unico che diciamo è sempre quello un po' più distaccato dagli altri è sempre il Charlie Watts, no, lui dice 60 sempre, anni all'epoca aveva 60 anni, adesso c'ha 70 anni, è 70 anni e faceva sempre un drum in particolare, cioè, molto semplice, però sì, quello lui era. È un batterista che viene dal blues e dal jazz, sì. E ha sempre avuto le sue prerogative, guai a toccargli la sua batteria, l'hanno sistemato su questo palchetto, lui suona sempre su questo palchetto, non vuole mai palchetti girevoli perché sono traballanti, lui dice io sono fatto così, non ho bisogno continua di fronzoli sempre. Ha detto, però Mick Jagger è uno che a cui piacciono i fronzoli, no? Tu lo certo, vedi. Certo. So, una sera ha detto che non era un tour, non ha visto Mick Jagger per tutta la sera, era in questo stadio immenso, in questo palco. Lui suonava e basta. Comunque di tenere il tempo, tenevo il tempo lo stesso anche se non c'era Mick Jagger, tanto ho fatto così. Ok, allora il pezzo che abbiamo scelto, vai. Thank you. Ok, posto numero 7 erano i Rolling Stones. Posto numero 6, l'unico musicista di colore che abbiamo in classifica, mi pare. Beh, c'era Chuck Berry prima. Sì, però molto, molto distante, nei primi 10 dico. Cosa dici? Perché Marvin Gaye è così tanto bravo? Perché questo disco è così tanto bello? Perché la Motown non voleva farlo incidere? Non lo so, guarda. Forse perché era all'avanguardia all'epoca. Era molto all'avanguardia, sì. Perché forse Barry Gordy aveva bisogno di soldi. Esatto. E un disco all'avanguardia in quel momento magari non era... Era un accettabile. Sì, era poi un sai, po' Marvin Gaye prima era l'artista soul che faceva una determinata musica, no? Doveva fare la classica canzone a duetto. Certo. Lui aveva cominciato come artista elegante, così, no? Poi aveva cominciato a duettare, e da lì prima Kim Weston, e poi c'è stata questa Tammy Terrell, che cui era stata anche ricamata un po' questa storiella, no? D'amore, lui e lei, Tamon, la classica formula cuore-amore, no? Del soul, che aveva venduto. Poi, si sa, Tammy Terrell nel 69-70 è morta. Sì. Di tumore, è stata una grave perdita per Marvin, e l'ultima canzone che hanno inciso insieme è stata You're All I Need To Get By, che credo sia uno dei duetti più belli della storia della musica soul. Ancora oggi ascoltarla fa venire i brividi, poi pensare che è stata l'ultima incisione di Tammy Terrell fa venire ancora più i brividi. Certo. E poi Marvin Gaye è arrivato al 72, dopo tutte queste esperienze, il fratello ritornato dal Vietnam, la morte che lo ha sconvolto di Tammy Terrell, il suo matrimonio che stava cominciando a vacillare, sì. Tante cose che già lo avevano inciso nella vita, poi questo padre padrone un po' strano, predicatore ma a suo tempo un po' equivoco, si vestiva da donna, che lui in realtà non si chiama Gay con la finale, in realtà si chiama Gay proprio, quindi anche questo cognome, questo fardello pesante che tutta la vita lo ha perseguitato fino alla morte drammatica, sicuramente gli ha fatto arrivare a un certo punto a incidere un disco nuovo dove comprimere tantissimi temi, e che lo hanno fatto diventare un grande capolavoro. Si parla di Sgt. Pepper del soul. Esatto, sì, proprio come tu hai detto giustamente, ha cambiato i concetti del soul. Perché prima si parlava di anima, di cuore. Lui ha introdotto degli argomenti che tematiche diverse, sociali. Non si trattavano, l'ecologia, il Vietnam. Sì, Vietnam soprattutto. Questa frase, fratelli, troppi tra di voi stanno morendo. Ci andava giù dritto. Ah, ecco, sì, non ha aveva toccato i cuori delle persone, e quando tocchi i cuori delle persone è quando entri nella storia. Sì, in questo caso nel soul, che è una musica che viene dall'anima. Certo, e anche toccato i cuori del portafoglio di Gorby, perché vendette ben 2 milioni di copie. Ecco, passate alla faccia di Gorby, che non lo esattamente pubblicare. Quindi fu molto soddisfatto, l'ha prodotto, l'ha voluto a tutti i costi, fu molto soddisfatto e rimase in classifica quasi un anno nella classifica di Billboard. Adesso sentiamo il primo pezzo che tu hai scelto, è la Title Track, mi What's Going On. Perfetto. Hey, what's happening? Brother, what's up? This is a good recording, man. Mother, mother, there's too many of you crying. Brother, brother, brother, there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some escalate. You see, war is not the answer, for only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring some love in here today. Oh, picket lines and picket signs, don't punish me with brutality. Sister, talk to me, sister, so you can see. Sister, oh, what's going on? What's going on? What's going on? What's going on? Yeah, what's going on? What's going on? Oh, what's going on? What's going on? Oh, right now. Right. simply cause our hair is long. Oh, you know that we've got to find a way. Bring some understanding here today. Oh, oh, oh. Pick it loud and pick it sound. Don't punish me with brutality. Come on, talk to me. You can see. Ok, abbiamo sentito allora questo bellissimo pezzo di Marvin Gaye, What's Going On, dall'album omonimo, title track, posto numero 6. Adesso abbiamo lo rush finale, gli ultimi 5 posti ragazzi, i 5 posti più importanti della storia del rock secondo Rolling Stone. Come cominciamo? Con un altro disco dei Beatles, Rubber Soul. Qualcuno dice è più bello di tutti, qualcuno dice... Per me è più bello il Revolver. Qualcuno dice è gemello di Revolver. Rubber Soul, sì, diciamo la continuazione. Rubber Soul è il primo disco in cui i Beatles cominciano a parlare di una realtà distorta dalla marijuana, dagli acidi. Lo dicono velatamente, però già dalla copertina si capisce che non sono più i Beatles sorridenti, tutti belli, insomma, ecco, c'è questa immagine di loro un po' allungata che richiama un po' gli LSD, gli allucinogeni, anche se era ancora un argomento un po' tabù, però loro già l'avevano cominciato a provare nel famoso bagno di Buckingham Palace, in cui si dice che Bob Dylan gli avesse regalato questi spinelli. Questo è vero, si dice, probabilmente sarà vero, chiaramente. Sì, beh, ne combinavano tutti i colori, l'immagine dei Beatles era quella dei ragazzi, bravi, puliti. Fra di loro c'era anche un personaggio che si chiamava Donovan, faceva parte dell'insieme. Sì, dell'entourage, poi lui scriverà anche canzoni, sì, darà una mano ai Beatles, sì. Qua e là, diciamo. Qua e là, spesso e volentieri, grande musicista Donovan. Abbiamo scelto un pezzo meraviglioso, cantato, c'è sempre scritto Lennon McCartney, però stavolta era di John Lennon. John Lennon, sì, l'ha scritto in autobus, mi sembra. In autobus, sì. Pezzo meraviglioso, il titolo? Norwegian Wood. Bello, bello da morire. Lo sentiamo, ok, vai. Sat on the road, biding my time. Ragazzi, penso che rimarrà sempre bello, bello, bello. Scritto da John Lennon, non vuol dire niente, ma... Con dei significati un po' velati, meglio sì. Non, molto velati. Non approfondire. Non approfondiamo, musicalmente è meraviglioso. Non c'è è niente. Molto visionario. Sì, decisamente. Questo sitar che comincia ad entrare, portato da José Harrison, perché aveva tramite Ravi Shankar. Tutte queste cose, queste... Non sono leggende, sono cose che tutti sanno. È l'inizio dell'estate psichedelica dei Beatles. Esattamente. Tu dopo hai scelto un altro pezzo. Meno The noto. World. The World. Non è un pezzo famosissimo da Robert. No, perché musicalmente è molto bello. Poi c'è questo giro di chitarra. È un po' lisergico, ma allo stesso tempo richiama il vecchio beat. Sì, esattamente. Qua scrivono che registrato 2 anni dopo She Loved You del 63 e 2 anni prima di All You Need Is Love del 67, segna il passaggio, come tu hai visto, dalle canzoni da ragazzette, ragazzi, 3 minuti, no? Alle canzoni più impegnate, esatto. Pieno di... Influenzati da Bob Dylan. Esattamente, influenzati da Bob Dylan. Andiamo? Ok. Ok, giustamente hai citato Dylan, molto influenzata da Dylan, non influenzata, qualcosa, qualche sentore, qualche sviluppo. Paul McCartney ha detto una cosa molto fulminea. Prima facevano sempre le soliti tre temi, come prendere una ragazza, come lasciarla, come riprenderla, no. Poi a un certo punto ha detto, abbiamo cominciato a sentire Dylan, ha detto, oh ragazzi, mica possiamo fare sempre gli etti della vita, poi c'è stato l'incontro, certo, tramite Allen Ginsberg, le prime fumatine, poi compravano questi dischi e a un certo punto ho detto facciamo questo, e si sono salvati, mentre magari altre band sono crollate o hanno dovuto starci dietro. Rubber Soul era numero 5 e numero 4, vedi caso, abbiamo citato Dylan e un altro disco di Dylan, Highway 61 Revisited, grandissimo disco di Dylan del 1965. Perché abbiamo citato questo? Perché qua c'è la canzone del secolo, ragazzi. Like a Rolling Stone. 5 minuti e 53. Prima canzone ad uscire dai 3 minuti e ad eragliare Ed era agliare nel senso positivo del termine. Sì, sì, sì, proprio ad allungarsi e dilatare. A proposito di questo, lo stesso Dylan disse: era lunga 10 pagine. Non aveva un titolo, era solo una cosa ritmica messa su carta e dedicata al mio odio costante verso un certo tipo di onestà. Alla fine non si trattava di odio, era dire delle persone hai qualcosa a loro. Praticamente 10 pagine era lunga, ragazzi, però ha fatto la storia della musica rock. Le stesure iniziali di solito sono sempre piene di correzioni, di continui abbozzamenti. Io ho visto delle immagini di canzoni di Jimi Hendrix scritti magari su dei block notes di un albergo, dove vedi parole cancellate, vedi proprio questi scritti lunghissimi, e poi magari viene condensata la cosa in un testo normale. Lavori di un artista che si mette di getto a scrivere testi, parole, e poi riesce a riordinare queste cose, insomma. Addirittura sapevo che The Wall doveva avere materiale per un triplo disco. Certo, è vero. Erano state redatte 110 pagine, quindi parecchia roba, insomma, ecco. Poi il meglio viene introdotto nel disco. E poi è stata incisa in solo 6 giorni, il disco, in solo 6 giorni, è pubblicato nell'agosto del 65. E se vuoi citare quello che hai detto il boss su Like Rolling Stone, beh, lo cito io: un colpo di rullante che suonava come se qualcuno ti avesse spalancato le porte della mente. 5 minuti e 56 fino all'ultima goccia, con un organo storico di Al Cooper, esattamente, fino all'ultima goccia, vai. Time you dress so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. So loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be without? But you know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with the mystery tramp, but now you realize he's not selling it. As you stand to the vacuum of his eyes and say, do you want to make a deal? And the clowns when they all did tricks for you. Never understood that it ain't no good. You shouldn't let other people get your kicks for you. You used to ride on a chrome horse with little man who carried on his shoulder a Siamese cat. Ain't it hard when you discover that he really wasn't where it's at? After he took from you everything he could steal, how does it feel? How does it feel to have you on your own with no direction home, like a complete unknown, like a rolling stone? Ah, princess on a steeple and all the pretty people, they all drinking, thinking that they got it made, exchanging all precious gifts. But you better take your diamond ring, you better pawn it, babe. You used to be so amused at Napoleon in rags and the language that he used. Go to him now, he calls you, you can't refuse. When you ain't got nothing, you got nothing to lose. You're invisible now, you got no secrets to conceal. Blu Radio. Siamo in dirittura d'arrivo, chiaramente. Al posto di Non solo acustico, che è il programma mio, abbiamo fatto la classifica di Rolling Stone. Colpa è tua. Esattamente, quindi ho sostituito il mio programma con una cosa ben più importante. Stasera, poi stasera c'era Gianluca, insomma, l'avvenimento è straordinario. Esatto, io ho avuto piacere. Numero 3, Gianluca, come possiamo definire questo mitico album dei Beatles, Revolver? Ma è uno dei dischi dei Beatles che amo, vabbè, li amo tutti, però questo qua ha tante belle canzoni. È, diciamo, il giusto compromesso tra i primi Beatles e i Beatles psichedelici che stavano pian piano arrivando, che si sono completati con Sgt. Pepper. E poi sono esplosi con Sgt. Pepper. Non serve dire il titolo di questo pezzo, lo conoscono tutti. Lo diciamo alla fine, dai, quando il pezzo è già andato. Vai! In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found a sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. I'm gonna have to sky's all we need. Sky of blue and sea of green. In our yellow submarine. We all live in a yellow submarine. A yellow submarine. A yellow submarine. We all live in a yellow submarine. A yellow submarine. A yellow submarine. Blu Radio Sera. Ma occorreva annunciarlo questo pezzo, secondo te, Gianluca? No, assolutamente. Assolutamente. Un pezzo anche i bambini lo conoscono. Ma è nato proprio perché... è nato per i bambini. È dedicato ai marinai di Liverpool. Esattamente. Yellow Submarine, Beatles, Revolver numero 3. Siamo al numero 2. Ma doveva essere l'anti Sgt. Pepper, Pet Sound? Cosa dici? Invece è stato, diciamo, all'epoca schiacciato da Sgt. Pepper. Nonostante che poi McCartney abbia sempre detto loro erano forse più bravi di noi. Ma loro, cioè, loro si conoscevano, Paul McCartney e Brian Wilson. E i due stavano parlando, no? Gli ha detto Brian Wilson, sto registrando un disco, cosa? Ah, sai, fa, anche noi abbiamo un disco, si chiamerà Sgt. Pepper, ti faccio ascoltare un brano. E questo brano è She's Leaving Home. Il povero Brian Wilson rimase folgorato e disse, e gli fa, invece poi McCartney, sbrigati, perché sai, il nostro Sgt. Pepper sta arrivando nei negozi. Quando arrivò Sgt. Pepper fu il crollo definitivo per Brian Wilson, che rimase, non so, per qualche anno inchiodato sul letto, non proferì parola, rimasto sconvolto da questa cosa. E questo è un disco bellissimo, Pet Sound, da rivalutare assolutamente. Sì, assolutamente. Pet Sound dei Beach Boys, Capitol 1966, secondo posto. Cosa hai scelto, Gianluca? God Only Knows, pezzo bellissimo, stupendo, incredibile. Love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, well, life would still go on, believe me. The world could show nothing to me. So what good would living do me? God only knows what I'd be without you. Parlavamo io e Gianluca, che armonie, queste voci che si ricorrevano, quanto bravi erano i Beach Boys a fare queste robe. siamo arrivati alla conclusione. Questa cavalcata lunghissima, ma valeva la pena, chiaramente. E chi è il primo posto? Ma chi poteva essere il primo posto? Sempre loro, i Beatles. E che cos'è Sgt. Pepper in 40 secondi, Gianluca? Epocale, un disco che ha cambiato per sempre il concetto di musica rock, a partire dalla copertina di Peter Blake. A partire dalla copertina. Una delle più copiate della storia della musica rock. La copiata anche Frank Zappa. Ti ricordi Frank Zappa? Gruppi anche che hanno fatto parodie, un gruppo rockabilly, insomma, tantissimi l'hanno ripresa. E tra l'altro Peter Blake recrimina ancora perché è stato pagato a forfè appena 350 sterline. Esattamente. Costata parecchio anche. Ok, abbiamo finito. Grazie ad Agostino che ha curato tutto. Soprattutto grazie a Gianluca Marin e la segretaria Marina. No, Martina. Ho sbagliato tutto stasera. Con Lola, il nome non c'è mai. In ogni caso è stata la sua segretaria, la fotografa, e ha dato una mano ad Agostino per i numeretti, vero Agostino? Sì, anche per la selezione dei dischi, dei CD, eccetera. Gianluca, ci vedremo in un altro appuntamento? Sicuramente il 29 settembre. Il 29 settembre, ed improvviso lei, non c'entra con l'equipo da 4, un'altra cosa. E terminiamo col più bel pezzo, secondo molti, più complesso, più difficile, il pezzo dove Paul McCartney era morto, era vivo, anche là si parlava inconsciamente del discorso. Che sei morto era vivo, ed In the Life parla di un incidente, tra parentesi. E è un pezzo pazzesco. È un pezzo pazzesco. Dove 160 orchestrali. Sì. Messi assieme. Hanno tentato anche i Moody Blues di fare una cosa simile. Devo tagliare, mi dico. Lo sentiamo? Certo. Grazie a tutti. Maratona. Grazie a te. E ci sentiamo quando noi? La prossima settimana? Io ci sono giovedì prossimo. Sì, giovedì prossimo, ci sono martedì con con martedì abbiamo Lisa Roveda. Ci sono io, no? Vieni a fare il fotografo te martedì. sì. E c'è la Lisa Roveda, la musicista jazz che viene a suonare martedì prossimo. Gianluca, grazie. Cosa posso dirti? Grazie a voi, ragazzi. È stato meraviglioso, grazie alla classifica di Rolling Stone e la tua competenza soprattutto. Grazie a voi, ragazzi. Bye bye, buonanotte a tutti. Ciao. Buonanotte. Flat. Found my way upstairs and had a smoke. and somebody spoke and I went into a dream. Non solo acustico, viaggio intorno al mondo della musica, a cura di Maurizio Calzavara. Now that I've lost everything to you, you say you wanna start something new, and it's breaking my heart, you're leaving. Maybe I'm breathing.